è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Grande protagonista di queste ore, caro Parenzo, noi lo conosciamo bene. Stasera, innanzitutto, trasporta fisicamente Fiorito, detto Air Batman, detto il federale di Anagni, lo trasporta fisicamente a porta chi? L'avvocato Taormina, il grande ritorno dell'avvocato Taormina a porta stasera, certo. Ma incollati davanti al televisore a dare battaglia subito battaglia, bravo questo Bruno Vespa, mi piace. Renata, senti che ha detto intanto nelle sue numerosissime interviste, il master è sempre quello che ha detto da noi qui, vanno tutti a puttane. Sì, sono andati anche a puttane questi del PDL. Comunque, nella giornata, se riesce nell'operazione di pulizia, passerà alla storia. Cioè, lui pensa che il federale di Anagni possa passare alla storia, Taormina? Se riesce nell'operazione di pulizia, ma non dei 20 milioni come dice lei, ma di pulizia radicale, credo che potrebbe veramente passare alla storia per la svolta di questa nostra seconda repubblica verso la terza. Si riferisce alla Polverini, non al Batman o al federale di Anagni, Ma davvero vado a letto, questi sera, soldi se li fregano, senti. Quindi lei dice che in tutti i gruppi... No, questi soldi se li fregano, guardi. Ecco, se li fregano, questo l'ha detto lei, insomma, certo. Era quindi, per capirci. Allora, per fare in modo che non se li freghino, c'è un solo sistema, togliere l'acqua alla fonte. È un po' quello che dico io, è affamare la bestia. No, ma la cosa più bella è la giornalista che a un certo punto dice questo l'ha detto lei, e lui dice certo, l'ho detto io. Vabbè, la frase più straordinaria resta quella delle puttane, diciamo la verità. Vanno a puttane. Questa è la... Tutti i gruppi intanto, poi la mandiamo, tutti i gruppi, certo, tutti i gruppi, sono tutto lo stesso. Avvocato, ha detto tutti i gruppi, tutti? Lei ne è certo? Tutti. Eccola, arriva. Il mitico Fiorito, in sostanza, è uguale a tutti gli altri consiglieri della Regione Lazio, né più né meno. Né più e né meno, anzi forse meno che più. Cioè, lei dice che tutti gli altri fanno la stessa cosa, utilizzano i soldi per comprarsi le macchine, per andare a puttane e quant'altro. Ma veramente sta dicendo? Ma è una porcilaia, avvocato. Vedrà, certo, è un porcino. Certo. Ma avete dei dossier? Avete dei dossier in mano? Abbiamo tutto in mano e daremo tutto all'autorità giudiziaria. Va bene, poi oggi ieri nell'interrogatorio sembra che Fiorito abbia detto che la Polverini sapeva tutto, dei soldi distribuiti ai gruppi consiliari, eccetera. Punturina, per il signor Pepe, te lo ricordi Mario Pepe, quello che va a 21 matrimoni? Come no, certo, quello che giustizia, sì, che dice fare politica significa anche andare ai matrimoni, io ne ho fatti 21 l'ultimo anno. A proposito dell'amnistia, non so perché torna d'attualità questa cosa dell'amnistia, sentiamo. Perché uno dei motivi per cui non si è fatta l'amnistia è sempre perché di questa amnistia si ne avvantaggiava Berlusconi e se ne avvantaggerà pure Berlusconi, perché anche Berlusconi è un cittadino come gli altri. È tornato a parlare Pepe. Diciamo quasi in sintonia, sembra una bestemmia, con Vendola, l'amnistia è un atto di igiene. So che tu sei favorevole, io sono contrarissimo. All'amnistia? Sì, totalmente contrario. Io totalmente contrario. Ultra favorevole. Beh, ma non mi stupisce. L'amnistia, io credo che, vista la situazione davvero da girone dell'inferno dantesco, è una necessità, è un atto di igiene. Brunetta, Tremonti? Non lo conosco, sentite, 8:30. Senta, Disuniti, l'ex ministro Tremonti se n'è andato dal PDL? Non conosco Tremonti. Nel senso che... Non conosco Tremonti. Quindi, no. Non lo vedo da tantissimo tempo, non lo conosco. No, ma le lo chiedo proprio come curiosità giornalistica. Non, mi chiedevo, guardi, se è l'ultimo, è ancora, dei miei, fosse ancora nel PDL. È l'ultimo, no, dei miei problemi. È anche l'ultima delle mie curiosità. Va bene. Brunetta, Tremonti manco lo conosco, eccetera. Ma uno quando risponde così, perché lo manda a quel paese? Scusi, c'è un meraviglioso La Russa, sui giornalisti, stupendo, sentite, meraviglioso. Venga più avanti. Allora, lei chi è che è così entusiasta? Per chi lavora? Per chi lavora lei? La 7, Piazza Pulita. Si vede. Allora, invece di fare domande, siccome non è una conferenza stampa, se consentite, se siete d'accordo, vi diamo un'informazione senza troppe domande, perché è già esaustivo. Perché danno fastidio le domande. Sì, danno quelle stupide però, quelle intelligenti no, ci piacciono. Perché piacciono a voi? No, quelle stupide. Oh, ecco, allora, senza bisogno di domande, stavo dicendo, che te le do io le notizie. Guarda un po', com'è che risponde solo Piazza Pulita, Il Fatto, gli altri non fanno domande. Vabbè, c'è molta carne al fuoco, ma... Rimanderei alcune cose a dopo, rimanderei alcune cose. Sono molto carico, Sì, sono molto carico, sono carichissimo, sono molto carico. E con noi, primo ospite della serata, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. C'è da raccontare, ci sarebbe da raccontare, Rosy Mauro che abbandona la seduta del Senato per impegni personali e lascia praticamente il Senato abbandonato a se stesso, cioè il Senato deve chiudere bottega perché non c'era un presidente che poteva... Non c'erano altri vicepresidenti. Una roba pazzesca. Ma Schifani dov'è, il signor Schifani? Ma non lo so, sarà stato, avrà avuto impegni personali. È molto grave, Allora, intanto è con noi il coordinatore della campagna delle primarie di Matteo Renzi, Roberto Reggi, ex sindaco di Piacenza, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Benone. Senta, dicono anche che sia un uomo che piace molto alle donne. Attacca subito. È vero, Reggi, lei piace molto alle donne? A mia moglie di sicuro, poi non lo so. Ma anche Renzi è uno che dicono, ma chi lo dice? Dove hai preso queste notizie tu? Ascolta, non si rileva, non si fa mai. La fonte, fino a quando non lo chiede l'autorità giudiziaria, non può essere rivelata. Io vorrei iniziare subito forte con Roberto Reggi, con questa storia delle primarie, come si faranno, eccetera, eccetera. Oh. Chi potrà votare e chi non potrà votare. Allora, lei oggi ha detto addirittura che la schedatura, cioè la pubblicazione dei nomi di chi voterà, è una roba da regime comunista. Che vuol dire? Mi spieghi concretamente questa cosa? Beh, vuol dire che impedisce alle persone che non fanno parte obbligatoriamente di un partito di andare a votare per un programma che invece dovrebbe essere di interesse di tutti ad andare a sostenere, nel senso che mettere dei vincoli all'ingresso per le elezioni è qualcosa che forse facevano un tempo, ma che non ha più senso fare, anche perché tutte le cose che avete detto fino ad ora, quelle pagine vergognose della politica che avete descritto prima, vanno superate soltanto se riusciamo a ottenere un rapporto diretto con i cittadini su progetti concreti che rispondono ai loro bisogni. Sì, d'accordo, però Reggi, che cos'è che non volete voi sostanzialmente? Non volete che i nomi vengano pubblicati? Ma sì, anche perché uno potrebbe anche non volerli pubblicati, un professionista che dice vabbè, se io vengo catalogato nel centro-sinistra tutti i miei clienti di centrodestra non vengono più, per esempio. Vabbè, no? Per questo mi pare diventa però... diventa una barriera all'ingresso micidiale per molti, no? Per esempio, le faccio un esempio molto concreto. Io personalmente, io questo l'ho già detto più volte, vorrei andare, non sono diciamo un tradizionale elettore del Partito Democratico, ho votato di qui, di là, al centro, come molti italiani, voglio andare a votare, ma questo lo dico sinceramente, non faccio un esempio, voglio andare a votare alle primarie del Partito Democratico per votare Matteo Renzi. Allora, questo l'ho già detto, lo ripeto, non è un problema, perché non è che ci ho prosciutto davanti agli occhi e tutto quello che dice Renzi è il Vangelo per me. però a me non me ne frega niente che venga pubblicato il mio nome. Detto questo, è giusto che un elettore del centrodestra, che uno che ha votato centrodestra, possa partecipare alle primarie, secondo lei? Uno che ha votato centrodestra magari una volta, anche 10 volte, perché il programma del centrodestra gli piacerà di più, ma non si sente necessariamente con il marchio del centrodestra, sì. Ma vuole votare per un programma che è liberale, pur essendo di centrosinistra, perché sì. Difende i poveri, eccetera, perché no? Cioè è giusto che partecipino alle primarie anche elettori del centrodestra. Tutti allora, cioè, da noi non è come negli Stati Uniti, per cui ci sono gli elettori del centrodestra e quelli del centrosinistra stabili, fermi, che non si muovono di un millimetro. Sì. Da noi c'è una mobilità di voto abbastanza ampia. Cioè, 45% di votanti che una volta vota di qua, una volta vota di là. Sì, ma allora se noi mettessimo un albo, una buona parte di questi noi ce li perdiamo in premessa. Ho non capito. Ci pensano neanche ad andare a votare, non prendono neanche in considerazione il programma che magari può essere quindi interessante. Allora, condannandoci a perdere oltretutto, perché noi per vincere abbiamo bisogno del 50%. Beh, queste sono le primarie, queste sono le primarie e non le elezioni innanzitutto, dunque è una cosa un po' diversa. Però lei dice, se ci fosse un albo con il nome pubblicato, molti elettori non verrebbero a votare perché magari non vogliono esprimere non vogliono essere catalogati nel centro-sinistra Non è come dire quello che uno vota, cioè non sarebbe come un po' violare la Costituzione questa cosa qui, la pubblicazione di questo albo col nome? Anche, oltretutto appunto è di dubbia legittimità questa cosa, ma le dico di più il fatto, perché vogliono, qualcuno propone gli albi per fregare evitare, Renzi? Beh, di sicuro, ma la motivazione ufficiale è per limitare le scorribande di soggetti organizzati che vengono a votare. Sì. Guardi che si ottiene esattamente l'effetto opposto, perché queste scorribande di soggetti organizzati non verrebbero evitati, perché loro non ne frega niente di comparire nell'elenco degli elettori, ma peserebbero molto di più, perché impedendo di fatto alle persone, alle brave persone di andare a votare, il peso di questi soggetti farabutti avrebbe un valore. Comunque lei dice niente di male, non c'è niente di male se partecipano elettori del PDL, anzi più elettori partecipano meglio è. Ma certo, perché la proposta di un progetto per migliorare il paese viene fatta a tutti i cittadini. Sì, queste sono le primarie, queste sono le primarie del PD, non è che sono. No, non è che attenzione, sono è sbagliato. Non sono le primarie del PD, sono le primarie del centro-sinistra, non sono di quelle del PD. E allora, se fossero del PD potremmo anche avere, no? Sì, ma se ma lei dice di una coalizione, che può essere anche molto ampia. Il progetto che i candidati di questa coalizione propongono è per tutto il paese. Io la combatto da ore. Eccoci qui, la Zanzara riprende con la persona più vicina a Matteo Renzi, sindaco di Firenze in corsa per le primarie. Come dice Reggi, che ai nostri microfoni non del Partito Democratico ma del centro-sinistra. Allora Reggi, andiamo subito alla conclusione. Voi senza voti che non sono tradizionali del PD le primarie non le vincete, cioè senza gli elettori che hanno votato il PDL non le vincete queste primarie. No, noi le vinciamo lo stesso. Vabbè, però adesso questo lei lo deve dire per forza, però no, ma io sto facendo il giro con Matteo Renzi sul camper e vedo l'entusiasmo che ci accompagna. Sì, no, d'accordo, però se non si allarga la platea, lei dice, se non si allarga la platea anche agli elettori che hanno votato Berlusconi, noi non vinciamo la primaria. No, degli elettori che sono indecisi, se lei guarda tutti i sondaggi... Che non sono i nostri, allora, che non sono del PD. Ma non ci sono gli elettori del PD, non esistono gli elettori, ce l'hanno 20%, cosa vale 23%? Beh, vogliamo governare col 23%. Ma non governare, per vincere le primarie, voi dunque mi sta dicendo... Ma le primarie si vincono facendo un progetto che vale per tutto il paese, il progetto per tutto il paese interessa a tutti i cittadini, almeno dovrebbe essere nell'intenzione di tutti i partecipanti, fare un progetto che risponde ai bisogni di tutti. Ho capito perfettamente, allora passiamo ad un'altra cosa, attaccare Veltroni... come ha fatto da Chiambretti Renzi sulla questione dei romanzi, è stato un errore, me lo dica chiaramente, è stato un errore, è stato ingeneroso nei confronti di Veltroni? Ma no, non parli pure lei di trappola come fa la Russa, su. No, vabbè, ma lui non ha attaccato, ha detto che è un bravo romanziere. Poi dopo... Beh, ho capito, ma insomma, su, l'ha attaccato. Ha detto meglio che scriva romanzi che far politica. È in linea con quello che ha sempre detto ultimamente, che è stato tante volte in Parlamento, può fare bene il proprio mestiere di supporto anche al Partito Democratico in un'altra posizione. Quindi era questo il messaggio. Vuoi farlo con i romanzi, vuoi farlo con un centro studi, vuoi farlo... Insomma, non ha sbagliato, non ha sbagliato. poteva essere un po' più delicato. Ah, ecco, dunque, comunque, no, la dica... insomma, la vuole dire, no, Reggio è una persona che insomma, la dice chiara. Adesso non può dire esplicitamente Matteo ha sbagliato, perché è il coordinatore della campagna di Matteo Renzi, però insomma poteva essere più delicato nei confronti di Veltroni, eh? Lo dica subito. Anche perché lo stima e continuiamo a dire noi che partiamo dal modello del Lingotto per quanto riguarda il nostro partito, e quindi sarebbe incoerente, no? Un attacco diretto brutale. Dunque se l'è lasciata scappare, su, gli è partito un po'. Gli è partito un colpo così. Senta, se voi vincete le primarie, un attimo solo, se voi vincete le primarie, Vendola, il ragionamento è questo: le primarie decidono anche la linea del Partito Democratico, sì. No, decidono il programma da portare avanti per il candidato premier. E dunque decidono anche la futura linea politica del Partito Democratico, no, giusto? No, assolutamente no. Beh, il Partito Democratico rimane quello che è. C'è un segretario che rimane in carica anche dopo, no? Che sarà sicuramente Pierluigi Bersani, il quale è il titolare della... Insomma, per andare alla domanda... Chiaro che lo influenzerà. Appunto, ecco. Non sarà più come prima, ma questo l'hanno capito anche i benissimo, stati, no? E allora, se voi vincete, Vendola è compatibile con Renzi, sì o no? Me lo dica esplicitamente. Sì, assolutamente sì. Ma questo nella difesa dei valori, anche evangelici, se proprio vogliamo. Ma che c'entra i valori evangelici? Ma sì, perché lui nella difesa dei diritti e dei valori è assolutamente in linea con quanto propone Matteo e con quanto... Ma che è... c'entra i valori evangelici? Non è che è in linea con i valori evangelici, il problema è il programma, non i valori evangelici. Leggi. Appunto, guardi che il programma è ispirato a alcuni... con i principi fondamentali, non è che è buttato lì. Ho capito, ma voi dice le cose opposte a quelle che dice Matteo Renzi, no, l'opposto. Sulla difesa dei diritti no, direi proprio di no. Ma no, ma sui diritti va bene, sì, ma sulle cose sostanziali ma anche quelli sono importanti, per carità, bene, però. Certo, ma infatti lui verrà sul programma che vincerà il nostro. È chiaro che il programma si deve nostro... adeguare al programma di Renzi, certo, ma questo succede sempre, guardi, quando i sindaci fanno la campagna elettorale, partono dal programma e su quello si cercano le alleanze. Dopo che su quel programma si è trovato la condivisione dei cittadini, dunque, e qui vogliamo fare lo stesso. Benissimo, no, ma è molto chiaro. Che vuoi domandare, David? No, volevo soltanto dire all'ex sindaco di Piacenza che io ricordo come un uomo molto vicino a Letta, a un certo punto poi ha cambiato. Sì, vabbè. No, ma è lui che io sono più lettiano di Letta, è lui che non è più lettiano. Che è diventato troppo di sinistra. Letta. Che la linea di Letta è sicuramente incardinata nel progetto di Matteo Renzi. Poi che ha fatto? Per paraculismo si è spostato su un'altra no, cosa? No, adesso lui per senso di responsabilità. Lei è un irresponsabile. No, io sono responsabile, soltanto che sono più libero di lui, forse. Ecco. Lui è vice segretario. Ma è vice segretario, scusi, è vice segretario perché l'ha scelto lui, cioè perché l'ha scelto Bersani. Non è che uno è vice segretario così per grazia ricevuta. Senta, una cosa, le voglio chiedere. Una cosa molto chiara le voglio chiedere, ed è questa: è possibile che, insomma, se Renzi vince, no? Ci può essere un ticket Renzi-Bersani? Cioè, ci può essere un coinvolgimento di Bersani? Ma sicuramente il coinvolgimento di Bersani e delle sue idee, di tutto quello che rappresenta. No, ma anche come figura sua. Ma cioè... che ne so, non so se lo interessa, non so se interessa Matteo, ma direi che è una cosa prematura, no? Sicuramente quello che Bersani rappresenta per il partito e per la politica italiana non è mica... Cioè non è da escludere un coinvolgimento? Non è da rottamare. Assolutamente un coinvolgimento ci sarà di sicuro, ma lo è nel non è da rottamare lui. Non è da rottamare Bersani. Ma assolutamente no. Bene, era molto chiaro. Senta, un'altra cosa è la questione dei confronti televisivi, Parenzo, che questo è interessante. Bersani si sta un po' comportando come Berlusconi a proposito di questi confronti televisivi? No, ma è molto diverso Bersani di Berlusconi, quindi li farà i confronti televisivi. Li farà, eh? Sì. Quanti ne volete voi? Quanti ne volete? Il più possibile. Vabbè, che ne so. Fortissimi. Vabbè, d'accordo, quanti ne volete? La zanzara. Non lo so adesso, anche perché bisogna vedere quanti sono i candidati in campo, no? Perché se sono solo ma la sostanza due, è questa, tanti. Ma no, ma attenzione, perché se ce ne sono anche solo tre o quattro, bisogna fare il regolamento che tutti hanno lo stesso spazio, gli stessi confronti, è un casino, non è così. Senta, un'ultima cosa, ed è questa, la questione dei soldi. Mi può dire, però me lo deve dire chiaramente, quanto pensate di spendere per le primarie? Una cifra voglio. Quanto avete pensato? Noi siamo tarati sui 250.000 euro che sono stati la soglia dell'ultima volta. Ma si possono superare questi? È giusto superare questi 250.000 euro? Diciamo che 250.000 euro sono una cifra molto bassa per una campagna primaria nazionale. E noi stiamo infatti cercando di organizzarci in maniera più sobria possibile e cercando di portare cioè, a casa. Volete superarla questa cifra? Sarebbe giusto spendere di più? Vorremmo stare al di sotto noi. In al di sotto dei 250. Siamo organizzati con una struttura agilissima per stare al di sotto. Bene, grazie. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist. La zanzara twist. 800 24 00 24. Parenzo, in collegamento da Siena, ci sei? Ma certo, ma lei lo sa che questa trasmissione è ascoltata anche in Europa, ad esempio? Beh, basta fare, basta cliccare su internet, non ci vuole molto. Ma io ho scoperto oggi che ci sono ascoltatori addirittura a Parigi, a Londra. Beh, io ne ho conosciuto uno anche da Tokyo addirittura, da Tokyo. Ma non è complicato, basta che uno fa click sul computer e sente. È la moderna tecnologia, amico mio, ma ti rendi conto? La zanzara ascoltata anche a Parigi, a Londra, è una svolta. Ma di cosa? Ma di quale svolta? Si dovremmo possa... cominciare per allora forse a parlare di più di la touche, forse. Sì, sicuro, sicuro. Quella decrescita felice, cioè introdurre anche temi che aprano al confronto. Sicuramente, Brookman, sicuramente. Rosy Andrei Mauro, Brookman, sospendo la seduta Rosy per Mauro. Impegni personali. Ecco. Sì, poi piomba Rosy Mauro. Uno parla di Glucksmann, lui cita Rosy Mauro. Rosy Mauro, sospendo la seduta per impegni personali. Ma com'è possibile una cosa del genere, sospendere la seduta? A meno che non siano cose molto, molto gravi, eh. Sentiamo. Voglio già parlato? Sì. Ecco, colleghi, sono costretta a sospendere momentaneamente la seduta in attesa che arrivi il vicepresidente di turno, perché ho degli impegni anch'io purtroppo. Era previsto per le 11.45, sospendo momentaneamente la seduta. Beh, non abbiamo ancora detto nulla sul famoso party di cui parlano tutti, con foto eccetera eccetera. Qui ha partecipato anche la Polverini, insieme a un suo assessore. Il famoso party di De Romanis, ex assistente di Tajani, poi eletto alla Regione Lazio. Nipote e per di Tajani. Nipote. Per festeggiare questa elezione ha fatto un party a Roma. Ha speso 30.000 euro, da quello che dice oggi in un'intervista alla stampa. Allora, il punto fondamentale non è spendere 30.000 euro per fare una festa. Succede solo in Italia, che un consigliere regionale per festeggiare la sua elezione spenda 30.000 euro per un party. Per un party. Io voglio credere quando lui dice, ci voglio credere, sono soldi miei. E però, caro De Romanis, lei se lo può permettere? Perché vincere, cioè entrare alla Regione Lazio è come vincere al Superenalotto. Esatto. Per cui per 5 anni sei ricoperto di denaro. Dunque uno si può permettere di spendere 20.000 euro per una party. Cosa legittima, per carità. Cosa molto legittima. E comunque provatemi che la festa di De Romanis è stata pagata con i soldi pubblici. Altrimenti non mi rompete le balle su questa storia di Vanzina, i costumi. Beh, ognuno però fa la festa che vuole. Beh, ognuno però, fa dai, la festa che vuole. Queste ragazze vestite da maiali, dai, è un po' fantozia, è un po' come fantozia. Ma tu dice... puoi parlare di sociologia, di queste no, minchiate, ma eccetera. Mi dispiace essere stato invitato, probabilmente ci sarei andato come molti. Ah, ecco, di la verità, ci saresti andato a toccare le ragazze, pagata, le cosce tornite delle ragazze alla festa in ma costume adesso, romano di De Romanis? Ci saresti andato. Le cosce tornite, lei è un maiale, io non penso alle cosce tornite. Aspetta, sono... fammi sentire De Romanis alla fine della festa, nel filmato della festa cosa diceva, De Romanis, ormai anche lui un altro mostro creato in questi giorni. Carlo, mi fa un commento su questo set, per favore? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? Cioè, prima andrò commento a caldo, non credevo saremmo arrivati a finirlo. Abbiamo fatto tutti i personaggi da pazzi, manca soltanto un personaggio. E cioè? Importante dell'Olimpo, Zeus. La zanzara è quell'odioso insetto. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Lo scandalo fondi alla Regione Lazio, si dimette Battistoni, Polverini domani decido se lasciare, Alfano ai capigruppo delle regioni, mai più casi simili. L'ex tesoriere PDL alla Regione Lazio chiama in causa la Polverini, non poteva non sapere dell'accordo per la ripartizione dei fondi. Il PDL fa quadrato sulla governatrice del Lazio, se molla lei crolla tutto, alta attenzione tra forzisti e ex AN sul futuro del partito e legge elettorale. Un impegno urgente, Rosy Mauro abbandona la presidenza del Senato, seduta sospesa, polemiche durissime, Schifani promette un'inchiesta interna. Utile ma non sufficiente, i custodi bocciano il piano dell'Ilva per le prime bonifiche, guerra di dati sull'aumento dei tumori a Taranto. Scuola, lunedì il bando per il primo concorso dopo 15 anni, 160.000 candidati per 11.000 posti, precari pronti a scendere in piazza. Peggiorano le stime del governo sull'andamento dell'economia, ma la luce della ripresa si vede, dice Monti, il pareggio di bilancio nel 2013 è nostro cardine. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Toti Lombardo, pizzicato da Radio Capital. Toti Lombardo, non conosco le trote, figlio di Lombardo, sentiamo. Il troto non lo conosco bene, diciamo, personalmente, quindi non so. Ho letto dai giornali, diciamo, qualche piccolo problemino che ha avuto, qualche piccola cosa. Io non so quali sono le differenze. Trote da noi non ce n'è molte, onestamente. Io sono di Catania, quindi abbiamo il mare, l'acqua salata. Trote, diciamo, non sono stato abituato a conoscerle, quindi non le conosco neanche dal punto di vista ittico. Meglio il pesce spada. Pesce spada sarebbe più carino, perché pesce spada da noi è sintomo di grande mitologia, diciamo, di grandi. Allora, pesce spada. Ma il spada, quindi cerca di farsi strada e di andare avanti. Toti Lombardo, 23 anni, già con i manifesti pronti, già con i manifesti aveva detto che il figlio mai si sarebbe candidato, il signor Lombardo, Vergogna. Ascoltatori, 800240024, vabbè, vergogna, adesso non esageriamo. No, vergogna. Va bene. Ce n'era bisogno del Marco da Udine? No, assolutamente non ce n'era bisogno. Ti chiedo, ce n'era bisogno? No, per carità, ma per me figurati. Magari prenderà un sacco di voti. Ma quello sicuro. Padre. Marco da Udine, dica. Pronti, buonasera. Vada. Io primarie del PD, io sono il commissario della Lega Nord per la provincia di Udine. Pure. Adesso non so se questa cosa mi farà cacciare dal movimento, ma se le primarie sono aperte a tutte io vado a votare e voto per Renzi. Non spero che il PD vinca le elezioni l'anno prossimo, speriamo di no, ma nella disgrazia in cui potrebbe vincere centrosinistra spero di essere governato da uno come Renzi, anche perché un'idea buona non è né di destra né di sinistra. Dimezzare i parlamentari, dimezzare le discipline dei parlamentari va bene anche a me. Beh, Marco, questo è molto interessante però. Cioè, lei è commissario, che vuol dire però commissario? Vuol dire semplicemente che il segretario della provincia di Udine è stato eletto a segretario regionale, per cui vabbè, lei è il capo della Lega in provincia di Udine, questa è la sostanza. Dunque lei ha anche un cognome, scusi. Ubaldi. Marco Ubaldi è il commissario della Lega in provincia di Udine. Dice: io andrò a votare, se possibile, alle primarie del Partito Democratico, giusto? Voterà per Renzi, però scusi, in questo caso io per esempio ho detto vado a votare alla primaria del Partito Democratico, se vince Renzi voto Renzi anche alle elezioni del Partito Democratico, questo è più coerente. Lei dice va a votare Renzi perché vuole il Partito Democratico guidato da Renzi e poi però voterà Lega, immagino, alle politiche. Non solo, ma farò anche una campagna elettorale per un buon candidato leghista. Quello mi pare io chiaro. Dico che l'avversario Renzi è un avversario che mi stimola di più e che sinceramente in caso di disfatta del centrodestra contro il centro-sinistra, ho capito. Poi mettiamo le prove Renzi. E dunque fatemi votare, dice lei. Io sono leghista, ma voglio votare Renzi. Guardi che non le permetteranno di votare, secondo me. Quello può essere, sarebbe anche abbastanza giusto, però d'altra parte io sono un cittadino. Ho capito. Come gli altri, verrà governato da chi diventa presidente del Consiglio. Va bene, grazie Marco. Giovanni da Milano. Buonasera Giovanni. Sono Giovanni da Milano. Dica. Salve dottor Parenzo, salve dottor Cruciani. Vada. Sono un vostro affezionato. Bravo. Sì. Avrei una notizia da darvi, visto che siete così innovativi. Una notizia adesso. Innovativi. La posso dare? Sì. Ciao Giovanni. Noi siamo abituati alle notizie. So chi è il vincitore del reality di Apprentice, quello condotto da Briatore. Scusi, lei sa chi è il vincitore del reality condotto da Briatore? Allora? Giovanni. Sì, chi è? Chi sarebbe questo vincitore? Volete sapere? Beh, sì, vediamo. Ce lo dica. Visto che ci sono quattro concorrenti, ancora voglio dire, il programma sta andando avanti. Sì, vada. È quello con la remoscia, quello che parla come Briatore praticamente, tipo si chiama, se non sbaglio, Matteo Gatti, tipo, mi sembra una cosa del genere. Matteo Gatti, sì, se non ricordo male, io non è che sono uno. Ma cosa ha fatto Giovanni da Milano? Beh, quindi cosa fa? Ma scusi, quindi, lei come fa a sapere adesso volete sapere troppo, lo so e basta. Le dico anche una cosa in più. Mi il programma è registrato. Programma e regia, questo buonasera, si sapeva. Buonasera, arrivederci. Ma come buonasera? Pronto? Scusa, aspetti un attimo. Pronto? Vabbè, se n'è andato. Ci ha dato questa notizia bomba. Cioè, allora, secondo questo ascoltatore, secondo l'ascoltatore sa e ci comunica chi è il vincitore di un reality in corso, una sorta di talent show. Bello, peraltro. Quello di Briatore. Bello, che e sarebbe un tale che si chiama Matteo, non mi ricordo come. Che ha detto Matteo? No, ha detto. Bah. Ha detto quello che co- Gatti, come si chiama? Sì, Gatti, sì, ha detto come si chiama, Gatti, un tale Gatti. Vabbè, controlleremo, eh. C'è una tua amica qui, c'è una tua amica, caro Parenzo, dopo te la presento, adesso sta bevendo la Coca-Cola, eh. Una mia amica? Sì, è qui di fronte a me, una persona che te ne vuole dire anche due, insomma. Giovane o vecchia? Ma no, mamma mia, subito così, giovane o vecchia, ma sei un cafone. Questa ma... è una domanda proprio da lui, no, ma, cosa, può, ma... cosa può chiedere, cosa può dire? Ecco, ancora non svelo il nome agli ascoltatori, anche se già avranno capito naturalmente, però dica chiaramente a Parenzo questa cosa qua, no, dica, sei posso un cafone, dirlo perché sei io... un cafone. Ecco, un caf... con la... vorrei dire una cosa che inizia con la S, vabbè, però allora, non diciamo, posso. Ma Iva Zanicchi è con noi, buonasera. Buonasera. Buonasera. Ciao Davide, dove sei? Ciao tesoro. E sto lottando con un leone. Tesoro, però dietro me ne dici di cotti di crudi. Innanzitutto com'è hai detto che già non c'ho rientro in questa cucina, mi sento un assurdo. Dai. Perché non c'è rientro? Questa è una lunga storia. Adesso poi verificheremo perché non c'è rientro. Mm. Comunque, chi abbiamo da chiamare? Ah, perché proprio in studio. Sì, è in studio. Sono qua. È qui, fisicamente. Carne e ossa. Più carne che ossa, come puoi immaginare. Ma no, è un po' dimagrita, l'ho trovata anche. L'onorevole Zanicchi. Europarlamentare del PDL o hai intenzione di lasciare il PDL, onorevole Zanicchi? Ecco. Subito glielo chiedo. Lei vuole subito entrare così nel tema? Però vedo del, che stavolta tentenna rispetto al passato. No, no, no, no, no, no, io sono questa sera sono particolarmente euforica, particolarmente arrabbiata, particolarmente vogliosa carica, di dire tutto quello che penso. Sì, perché ogni benissimo. Volta mi dico, ma tu non devi dire sempre ciò che pensi. Ma perché no? Esatto. Ma chi me lo impedisce? Allora diciamo subito, il PDL è morto. Finito. Non sta bene. No, vabbè, okay, non è quello che pensa allora. Non sta bene, che vuol dire? Ormai è un cadavere. Allora, è un cadavere. Sta attraversando una crisi che forse non... Comatosa. No, comatosa, nel senso che poi dal coma ci si può anche risvegliare se ci sono delle buone cure. Per me è in coma. In coma. Però profondo si può... anche profondo no. In coma. Vigile. Diciamo in coma. È un coma, vigile. Occhio, E Berlusconi è in coma pure lui insieme al PDL. Berlusconi, se vuoi che ti dica subito... Ma non dovevi ricevere una telefonata da un radio ascoltatore? Sì, ce n'abbiamo una serie in collegamento. È tu sì. Trascuri tutti per no, parlare subito, di Berlusconi, subito. Che... Ti vedo carica, subito Berlusconi. No, Berlusconi sei incazzata è... con Berlusconi? No. Sì, dimmi la verità. Un po' sì, un po' sì. Come un mai sei incazzato? Sono incazzato per i fatti miei. Sono un po' incazzato. Ma perché? Non ti risponde al telefono? Perché? È inutile che guardi al vetro tuo marito. No! Per rassicurarti. La prima volta che mio marito è dietro il vetro. No, io non lo chiamo. Io non lo chiamo. Non lo perché sei incazzato? Non ho frequentazioni perché sono incazzato. Ma perché sei incazzato? Dillo chiaramente. Perché sono delusa? Perché sono arrabbiata? Perché sono. Io ho creduto tantissimo in lui. Dunque, Berlusconi ha fondato questo partito. Sì. Berlusconi è il capo di questo partito, è il padre. Sì. Io ho sempre detto: non mi posso rimangiare quello che ho detto. E cioè, questo... se ne va Berlusconi, questo partito è morto. Ma non perché non ci siano dei politici validi, capaci di poter prendere le redini, ma perché non la. Esempio, mi lasci dire due cose su Angelino Alfano? Ecco, sì. Angelino Alfano, io l'ho conosciuto, l'ho visto una volta. È inadeguato, diciamo. No, non è vero. Però l'ha ammazzato perché, lui. Perché lui. L'hanno ammazzato, non lui dico l'ha lui, l'hanno ammazzato, lo l'hanno dica. Svuotato. Ma lui hanno l'ha cominciato ammazzato. A dire che non ha il quid e che non ha e non porta... È un ragazzo, giovane, intelligente, colto, buono, sembra che sia onestissimo. Capace. Allora, e perché l'ammazzi? Perché Berlusconi, perché l'hai ammazzato? No, io non dico Berlusconi. Ma sì, l'hai detto, il quid l'ha detto lui. No, vabbè, qui va bene, ma tutto il resto sono perché sono gelosi e invidiosi. Ma perché non vuoi dire la cosa? L'ha detto lui del quid? Sì, esatto. Ah, ecco perché mi hanno chiesto, ero a Firenze, mi ha detto: ma secondo te non ce l'ha il quid? Io ho detto: vabbè, l'ho detta, tutti che me la rimane. Ho detto: per me il quid ce l'ha anche molto lungo. No. Ho detto, perché c'è un bel quid, insomma, dai, facciamo perdere, secondo me, altro che storia. Ce l'ha il quid, è pure lungo. E dunque lui l'ha ammazzato, per questo si è arrabbiata con Berlusconi? Per questo no, io non ho detto che Berlusconi ha ammazzato. Vabbè, però certamente, detto, certamente tu non puoi dire un giorno è mio figlio prediletto, è il più intelligente, il più bravo di tutti, e poi il giorno dopo dire ma non ha il quid, non ha consenso. Per me invece non è vero. L'ha ammazzato. Lui, vabbè, è uno dei pochi che poteva e che può ancora, forse. Comunque ha ammazzato, lui lui l'ha ammazzato. Vabbè, dillo, dai. Intanto lo dici te sempre. Lo dico io, mi metti in bocca uguale. Delle cose che io non dico. Ma come però, no? L'hai detto però, Berlusconi. Però, dai, su. Però io sono deluso, ma non soltanto. E poi l'altra arrabbiatura con Berlusconi. Sono incazzato con il mondo intero. Vabbè, ma quello non ci interessa. No, ti devi interessare invece, perché io sono una pacifica, una per il bene, uno per l'amore, uno per la pace. Ci sono incazzato lì che ci sono dei motivi. Però scusami, scusami, ma perché io. Ma perché sei incazzato con Berlusconi? Spiegami. Oltre al motivo, oltre al fatto che ha ammazzato Alfano, qual è l'altra cosa? No, perché sono incazzata, è una brutta parola. Io l'hai detto. Sono incazzata, va bene. Diciamo che sono incazzata. Perché? Perché io sono profondamente delusa. Sono delusa perché mi aspettavo molto di più, perché lui è una persona molto capace, perché questo non lo nega, non può negare nessuno. Forse io non sono così intima di Berlusconi, anzi non lo frequento, forse lui ha sbagliato, nel senso che ha voluto accontentare tutti. Quando si fa politica puoi avere la pretesa di essere amato da tutti, sì. Ma le donne, troppe donne candidate nelle istituzioni, le donne male minore. Non cominciare a farmi dire certi nomi perché ti strappola la cuffia. La Minetti, dai, ma che me frega a me della Minetti, che non la conosco neanche. Ma lì pure là, come si chiama? La signora Matera. Non me ne frega niente. Dai, su. Guarda, io non faccio questi nomi, non li faccio, manco se tu sotto tortura. Però sono persone molto capaci, molto vicine al presidente. Sai chi c'era, sulla sulla nave? Chi c'era? La Matera. Non sono mica salita io, È salita la Matera. Ah, non lo so. No, è salita la signora Matera. Chi te l'ha detto? Si sa. Ecco. Ma che ruolo ha la signora Matera? Errore candidare la Matera alle europee, diciamo la verità. No, quello no. Il guaio è che la candiderà anche qua. La candiderà anche alle politiche, dici. Ma tu. Naturale. Ma come? Va bene, io ti dico ma una è capace cosa. Di intendere di volere la signora Matera, secondo te? Sì, non lo so, non la conosco, non la frequento. Ma il non, lavoro chi lo fa? Non so chi è. No, lo fa tutto lei, è bravissima, è stupenda, meravigliosa. Non me ne frega! Posso dire che non me ne frega un beneamato tubo? Anche lo so che vorresti che dicessi anche cazzo, ma io non lo dico in radio. Per carità, io non voglio assolutamente nulla. Ascolta, poi ti posso dire qualcosa. Continui ad andare oppure ti sei rotta le scatole del Parlamento europeo? No, cioè a me dispiace di una cosa, adesso sono per un attimo seria, davvero. Sì. Io sento parlare male dell'Europa da tutti, allora non abbiamo capito niente. Ma no, il pippone sull'Europa, no. Il pippone, amore, ma il pippone! Ma se noi non riusciamo a far sì che l'Europa sia potente anche politicamente, ma come? Ma dove andiamo da soli? Ma dove andiamo? Per essere un muro, un baluardo come difesa. C'era anche la Pascale sulla nave, c'era anche la Pascale. Chi è la Pascale? Dicono che sia la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale. Conosci? No. La conosci, la fidanzata di Berlusconi? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Oltre che fare la fidanzata, cosa fa? Che ne so, la fidanzata. Tu lo saprai, è una politica, è una giornalista, un'attrice. È stata al consiglio provinciale, credo, di Napoli, poi si è dimessa. Pascale. La conosci, Francesca Pascale? Pascale. Va bene, Pascale, Dario da Milano. Fermiamoci per un secondo. Dario da Milano, 800 24 00 24. Ma non c'è. Dario. Sì, però non c'è il direttore. Pronto? Sì. Sì. Beh, volevo parlare del coordinatore della campagna di Renzi. Sì. E cercare di capire se ho capito qualcosa o non si capisce una serie. Intanto che sapere io quella è la campagna per le primarie del Partito Democratico. Mi pare che l'abbia capito anche il commissario della Lega che va a votare per questa roba. D'altra parte una coalizione dovrebbe avere un programma di coalizione che non c'è, quindi credo che il gruppo Renzi, o meno il suo coordinatore, non ha capito un accidente. Due, io credo che se vogliamo cambiare le cose in questo paese, e parliamo di responsabilità tutti, a partire da voi, lei e Parenzo. Che dobbiamo fare? Non ho capito. No, vogliamo fare responsabilità. Bene, allora responsabilità è anche andare a votare facendo sapere per chi si vota. Alle primarie. Scusi, però uno non è che c'ha di fronte, ce l'ha scritto in fronte Renzi, elettore del Partito Democratico. Si sottoscrive un programma, si ha il coraggio di dire, non perché sono un commercialista e perdo i clienti, non voglio far sapere, vado di nascosto. Si sa, io vado a votare per le primarie, poi voto Renzi, voto Gesù Cristo, voto la Madonna incinta, voto quello che voglio, no? Però la responsabilità la devo prendere, se no non posso prendere responsabilità da prima chi Reggi, prima Reggi diceva un'altra cosa, che non si può pubblicare il nome di chi vuole andare a votare alle primarie per diversi motivi. A me personalmente non me ne frega assolutamente nulla, io vorrei andare a votare alle primarie del Partito Democratico e votare per Renzi. Però non me ne frega niente, cioè, di vedere pubblicato il nome. C'è chi non vuole che il nome sia pubblicato, come se fosse una sorta di, scusa, no, di lista. Ma è un'iniziativa di partito, che è come se uno si iscrivesse in un qualche modo, aderisse a un'idea, no? Sì, ho capito, però quindi è giusto dire... pubblicare i nomi. Vabbè, ma per che... te è giusto, e secondo Renzi vuol dire non è avere giusto responsabilità e dare ai politici la possibilità di non avere responsabilità. Ho capito. Ma no, per forza Renzi non vuole, perché sa che lui può vincere solo con i voti che provengono dall'area del centrodestra. E certo, vabbè, ma vuole... quello è abbastanza chiaro. Ma cioè... quindi quell'elettore di centrodestra non è che vuole avere il suo nome tra i simpatizzanti, è ovvio. E allora? E allora non va a votare se deve mettere il nome, no? Per me è finita stasera la campagna di Renzi, perché deresponsabilizza e vuole deresponsabilizzare gli elettori. Ho capito perfettamente. 800 24 00 24. Allora, senti, Iva, adesso, no, senti. Io andrei a votare per... Sì, io vado a votare per Renzi. Se dicono che Iva Zanicchi ha votato per Renzi, ma cosa me ne frega? Dunque tu andrai a votare per Renzi? Ma non lo so, molto probabilmente forse ci vado, ma perché no? Ma anche giusto, alle giusto, giusto, giusto. No! Alle politiche potresti? Non lo so, no. Però e cambia. Non lo so. Perché cambia? Anche perché io ce l'ho un po' su con Renzi, perché mi ha copiato il suo motto. Cioè? Ma porca miseria. Ma qual guarda, è adesso? Sì. E perché è un motto tuo? Perché sì, lo stavo depositando. Il ma mio, veramente? Sì, giuro su Dio, il mio era adesso basta, che è più forte. Vabbè, ma cosa adesso vuol dire? Basta, basta, basta le ruberie. Ascolta, quello che sta succedendo, voglio dire, non c'è pudore. Non c'è... Brava. No, perché ascolta, erano successe cose sgradevolissime. Ma adesso avevano te ne rubato. Accorgi? No, voglio dire, ha rubato voi. E questi che hanno il coraggio di continuare a rubare. Ma poi il PDL rubano, il PDL, tutti, rubano. Quando rubano quelli di sinistra non se ne parla, si tiene nascosto. Rubano tutti ed è una cosa indegna. Allora, questa hanno rubato. No. Poi la cosa più buffa è che mangiano le ostriche alla mattina. Io mi vengo da vomitare a pensare che uno mangia le ostriche al mattino a colazione. Va bene. Ma verrebbe voglia quello di lasciare il PDL dopo questi scandali? Mi dica la verità. Ma guarda, io perché sono incazzata? Iva, dimmi la verità. Sì. Sì. Ma sì. Perché non lo lasci? No, allora? Perché allora bisogna... Perché non lo lasci il PDL? Subito, immediatamente. Sono cazzi miei, va bene? No, subito. No. Subito, perché... Allora, no, io ti dico questo. Allora, secondo te, che sei un uomo intelligente... Sì. Tu un po' meno. Allora, secondo me... Davide. Secondo me... Allora, questi... faceva, io non lo so se è vero, se adesso poi verrà fuori. Compravano ville, macchine, sì, sì, soldi a manca, cene, questo ruba, quell'altro, cene, cene, cene, cene, allora... sono, nessuno fiatava, nessuno sapeva nulla. Brava. Allora a casa mia si dice: quando i buoi scappano, sì, chiudono la stalla, è troppo tardi denunciare, lo si doveva fare dunque prima. Dunque anche la Polverini sbaglia, no, come faceva a non sapere? Mi dica la verità. Non la conosco. Dimmi la verità, Iva. Però comunque, perché non, dici, non fai un annuncio? Conosco. Lascio il PDL, mi no sono rotta le scatole. No, io sono andazzo. Il PDL, io combatto, sono sola. Io ho in testa, mi sta frullando una cosa... Vuoi fare una lista tua? No, lista no, Zanicchi, no, no, eh? Oh, mi frulla in testa una cosa pericolosa. Qual è? Qual e è? Dato quando mi frulla, io purtroppo ci andrò a sbattere il grugno, ma ci vado avanti, sì, perché voglio parlare, voglio qui nel mio territorio, qui, sì, io sono, sì, io sono dell'Europa, tu ma sai di... che io sono, sì, credo, sì, nell'Europa. Ma di che vuoi no parlare? Ci credo. Io voglio parlare alle persone umili, alle persone semplici. Vabbè, che è, e che è questa roba qui? No, perché tutti si lavano la bocca, si riempiono la bocca. Vabbè, e Iva, qui i problemi sono insormontabili. Ma perché non fai e allora una lista come quella di perché non fai una lista come quella di Fede? Pure tu, una lista personale, Non per piacere. Ma quale sarebbe l'idea che ti frulla? Io non ho capito bene. Adesso quando la elaboro meglio, io vabbè, ti chiamo. No, presto. Ah, presto. No, presto, presto. Perché no? Perché no? Comunque, guarda che mi hai dato un'idea che non mi era venuta in mente, lista fare una Zanicchi. Lista Zanicchi. Lista Zanicchi. Adesso basta però la chiamo. Adesso basta, lista Zanicchi. Avete rotto vale le palle. Lista Zanicchi. Eh? Quanto vale? Quanti ma chi se vale ne frega? Che ne so quanto vale. In tutta Italia, quanti io voti io vado in giro, avanti, indietro, avanti. Ma che me frega? Io certo, sai, ma adesso non lo dire perché è disdicevole. Sai cioè quanto ho speso io per fare la campagna elettorale alle europee? Quanto? C'è gente che ha speso 4-5 milioni di euro, non bisogna neanche dire quello. Tu quanto hai votato? Io ho speso 4.900 euro. 4.900 euro, è un nome Zanicchi. È famosa, sì, so io cosa mi sono per i mercati, andare in giro, andavo nei mercati. Mentre c'erano altre che non facevano nulla. E mi dicevano, signora, dove canta stasera? No, dico, non canto, guardi, mi sono candidato, mi dà... poi il bacio, poi la stretta di mano, poi l'autografo. Mi sono fatta un... Senti, scusa un attimo, è meglio Renzi... Ma non sapevano che ero candidata! Meglio Renzi dei colonnelli di AN? Sì. Io, guarda... Meglio Renzi della Russa, diciamola tutta. Sì, ma sono, non ti fare suggerire. Sono svenuta. Ma che io, secondo te, ho bisogno di... Che ne so, dall'altra parte no. Tuo marito ti dice stai calma. Allora, stai... io quando... Meglio oggi... Renzi di alcuni... Meglio Renzi. Di alcuni della Russa. Meglio Renzi per quello che dice, per quello meglio, che fa. Meglio poi di Gasparri, meglio di Gasparri, che sì. Poi, che poi ci delude da morire. Gasparri certo. Non lo conosco. Io mi allora, sono... meglio di chi? Meglio io della mi Russa. Sono messa, mi hanno... Devo dire che Berlusconi mi ha voluto lui nelle liste. Quando, sì. Quando però dimmi una cosa, è meglio di... Perché non mi voleva nessuno. Non mi voleva la Russa, non mi voleva Verdi. Non mi voleva nessuno perché ho detto che cacchio viene a fare questa qui, cosa ci viene a fare comunque. Meglio Renzi di questi qua, meglio di Verdini, meglio di La Russa, dimmela tutta. Io sto parlando tra Renzi, sì, esatto. E che mi ha simpatico Bersani, perché quando parli in emiliano mi commuove. Però se è vero che loro predicano sì. Tutti largo ai giovani, largo ai... allora mandiamo sti giovani, allora. Mandiamo Renzi e Angelino Alfano. Benissimo. Allora, meglio Renzi di questi dirigenti del PDL, sì, di questi colonnelli. Di sì. Alcuni. Di alcuni. Per esempio, la Russa, sì. Sicuro. Ma io la Russa, sai, è un politico di vecchia data, è un furbacchione. Verdini? È uno Verdini, che sa. Meglio di Verdini. Ah, Verdini, l'ho visto una volta, mi è molto simpatico. Ma meglio toscano. Renzi, sì, meglio Renzi. Meglio Renzi di Bersani, to, va bene. Allora, quello sì, ma dei dirigenti... che cacchio, scusa, eh. Vabbè, ma meglio Renzi di alcuni dirigenti del tuo partito, mi sembra evidente, no? È da quello che dici. No, guarda, questi nomi che hai fatto, tutto sommato, sono grandi politici che hanno grandi esperienze. Grandi politici. Vabbè. Grandi politici. Invece il marcio sta... Chi De Gaulle? De Gaulle? No, dico De Gaulle è stato un grande politico. Vabbè. De Gasperi. Anche De Gasperi è stato un grande politico. Ma che discorso? Poi ognuno poi valuta le proprie... Se ti faccio altri nomi, per me non PD, sono eh? Stati grandi politici. Se lo dico, arriva la rivoluzione in Italia. Sto zitto, chi c'è non da, lo dico. Chi c'è da rottamare nel PDL? Guarda, io rottamare, io direi nessuno. Ma ognuno nessuno, di noi su. Deve avere il buon senso di capire quando è il momento di andarsene. Anche tu? È certo che anch'io. Ma io non sono una politica, sono 2 anni che io sono in politica. Ma tu sei all'ultimo giro. E mi sto accorgendo del marciume, dello schifo che c'è. Che scusami, tutti parlano Iva, però dai un consiglio. Però ci sono delle persone valide, anche in Europa. Anche nel mio stesso partito ci sono delle persone certo. Validissime. Dai un consiglio a Berlusconi, basta con la politica e dedicati ad altro. Dai, su, il ritorno pure di Berlusconi è una buffonata. Dilla, no, dilla io dico dai. Questo, no, non dico questo. Ma no. Come no? No, lui è padronissimo di fare ciò che vuole. Però... Io dico solo una cosa, che sì. Chiaramente in un pollaio... 2 galli non ci stanno bene. E dunque? Se lui vuole essere gallo, che sia pure il gallo cedrone, sì. Ma vicino deve prendere non una gallinella, ma una bella gallinona padovana, come cioè, potrei essere io. Cioè, che vuol dire? Spiegami. Che vuol dire che deve prendere una bella gallinona padovana? No, voglio dire, tu lo sai questi detti, ma tu non sai niente, proprio se vivi in città, tu lo sai che 2 galli nel in uno stesso pollaio. E chi sarebbe l'altro gallo? Ma se lui si parla di Alfano e di Berlusconi, non esiste, si devono decidere. Allora, uno dei due, magari vicino a Berlusconi ci metterei una donna. Capace. Chi, per esempio? Io adesso scherzavo quando ho detto una bella gallina. No, ho capito, ma si deve, non una gallinella. Ma si deve ricandidare o no? Dagli una un vecchia consiglio. Gallina che fa buon brodo. Dagli un consiglio, dai. Non ricandidarti, pensa alla salute. Non ricandidarti, no, che senso no, no, ha? No, la salute no, perché lui è pensa alle donne. No, è anche troppo in salute, l'ho trovato bene, l'ho trovato benissimo, l'ho visto quando saliva sulla nave, pimpante. No, no, no, no. Va benissimo. Solo l'unico... Se potessi dargli un consiglio io, gli direi, forse è bene che lei, Presidente, si stacchi leggermente, ma andiamo avanti qualcun altro, che potrebbe essere anche Alfano, e lei rinunci. Rimanga alla guida di questo, perché lui dietro è le quinte, diciamo, dietro le quinte, dietro le quinte. Ma lui non ci sta dietro non le quinte. Ci sta, Perché non dedica una bella canzone a Renzi? Che cosa le ispira Renzi? Dai, una bella canzone a Renzi, dai, su. Una bella dai. Canzone a Renzi, su. Dai. Ma io guarda che non sono mica innamorata di Renzi, io non sono di sinistra. Ha detto che tutte le donne sono innamorate di Renzi. Vabbè, innamorate lì, vabbè, si dice, è una persona, io non lo conosco, non l'ho mai incontrato. Ma mi è bello. È bello? Ma no, ma sì, non è neanche brutto, ma non è neanche bello. Innamorate politicamente. Non è neanche bellissimo, dici tu, voglio politicamente, dire. Sì, facciamo una bella canzone a Renzi, su. ricorda un po' il Berlusconi vattene del 90. Vattene amore. No, come vattene amore, deve arrivare, no. Vattene. Come? Ricorda un po' il Berlusconi del 94, Renzi, questa idea di novità eccetera, ricorda un po', eh? No, mi dispiace per te. Ma come no? No, no, no, no, no, no, no, Berlusconi aveva un'altra pill, aveva un altro quid. Però è più bello Renzi di Berlusconi, però... è più bello Renzi. Aveva di... un altro quid. È più bello Renzi di Berlusconi. Ma sì, fisicamente, non... fisicamente, su. Dai, va dai. Insomma, dai. Più sì. Bello Renzi di Berlusconi. Vabbè, ma è un ragazzo. Ma anche del, anche del Berlusconi, dai, su. Vabbè, quando Berlusconi è entrato in politica non era un ragazzino, eh. Diciamo aveva che già... oggi la novità si chiama Renzi, dai, Zanicchi, su. Dai, su, oggi la novità. Oggi la novità sono stata io la prima Renzi. A dire che le donne del PDL, ma era così un modo di modo però di oggi dire. La novità erano in politica tutte... si chiama Renzi, ma questo. Ok, è... allora perché gli fanno tanto la guerra? I suoi, eh? I suoi, sì. I suoi, però sono tutti oggi... contro. Tutti oggi contro. La novità è hanno, Renzi. Hanno una paura fottuta di Renzi. Renzi, questo ma mi fa la novità piacere. È Renzi, sì o no? Sì. Oh. Renzi. Renzi e Grillo. Renzi e Grillo. Ti piace Grillo, eh? Ti piace Grillo? Lo adoro. Sì, veramente. Lo adoro. Lo voteresti? No. No. No. Non lo voterei, ma però mi lo piace. Adori. Ti piace. L'ho tantino. Sempre amato. L'ho sempre ti piace quando spara a zero su tutto, ti piace. Quando sì, va all'attacco, mi... a zero ma su tutto. Ma come comico mi è sempre piaciuto. Ma anche, anche. E cosa e che dici invece del... Che effetto ti fa appartenere allo stesso partito del signor Fiorito, del signor Batman, eh? Davide, eh. Guarda che non rubano mica soltanto al centrodestra, eh. A sinistra fanno man bassa, io lo so, in Emilia, però non se ne parla, amore, perché... dai, se lo sappiamo benissimo. Ma che effetto ti fa? Appartenere allo stesso partito di Fiorito? Quante persone si agitano? Beh, per... allora non diciamo solo di Fiorito, mi fa schifo anche se mi fai altri nomi che chi? Non... Che non... Beh, tu lo sai, non, chi è non che ti rompere. Fa schifo? Chi è che vabbè, ti fa schifo? Dai, su. Dai, chi ti fa schifo? No, no, dillo. Schifo. Potentino? Tutti quelli che sono così in odore di disonestà. Ti allora questo tanto bisogna capire bene perché dare addosso la croce Fiorito ma, si chiama. Ma tu hai mai partecipato a un festino di questo De Romanis? Lo conosci, braccio destro degli italiani? Lo conosci? Ex no, braccio no, destro italiano. Mai so partecipato. Ha lavorato mai in partecipato Europa. A festini là a Bruxelles? Ma che festini? Ma che festini? Feste. Ma no, non lo so, ma ero un ragazzo. Io forse non me lo ricordo neanche lui, non credo di averlo visto mai. Però, per esempio, i miei assistenti lo conoscono e hanno sempre detto che è un ragazzo, d'oro. Un bravissimo ragazzo. Un bravissimo d'oro ragazzo. Proprio. Che ha fatto? Adesso questo Fiorillo si chiama. Fiorito, si chiama. Fiorito. Questo Fiorito magari scarica le colpe su altri che ma sono certo, magari certo. Innocenti. Vabbè, comunque fuori, ti devo tutti. Salutare. Bisogna bruciarli. Chi no, bruciarli? Chi? I disonesti, chi? Fuori dalle palle. Fuori! C'è gente come Fiorito, bisogna metterlo al muro. No, muro no, fuori. Fuori. Vai a casa. Se è colpevole, eh? Sì. Se sei colpevole, vai a casa. Tipo, ma neanche un attimo. Ma lei è più grillina. Ma di... anche se la. Come si chiama lei? La lei signora. Chi? Ma signora. Che ne so. La signora, la presidentessa della, della. Ti abbraccio, a presto. Vabbè, ciao, Iva. Il resto mi rimanga della strozza. Quando ho deciso il per cosa? Il mio partito, vengo qui e faccio l'annuncio. Qui alla Zanzara. La Zanzara. Per me il quid ce l'ha anche molto lungo. Tu sei come una piccola zanzara. Il quid di Angelino Alfano spiegato da Iva Zanicchi 800240024. Peccato che non sei qui, David, peccato. Lo so. Giulio Ascoli Piceno, buonasera. Gianni, stasera. Buonasera, buonasera. Vi voglio bene, ma stasera state a dire un sacco di boiate riguardo a quella storia della Mauro. Ma noi le diciamo sempre le boiate, della, non si però, della guarda, Rosi Mauro, di Rosi allora, Mauro. Voi non dovete far passare che la storia è della... A parte, io non c'entro niente con la Mauro, okay? Ma infatti lei è di Ascoli Piceno. Perfetto, ok. Allora, la Bonino presiedeva, finito il termine della Bonino toccava a Nannia. Nannia non c'era, la Mauro si è messa a disposizione e state crocifiggendo la Mauro. Non è giusto, non mi meraviglio. Sì, ho capito, ma io non sto crocifiggendo la Mauro per niente. È di Parenzo, che di solito è molto preparato e doveva intervenire su questa storia. Sì, innanzitutto, scusi un attimo, vorrei capire i motivi. Ho detto prima. Che sì. Ci possono essere anche motivi gravi per cui uno a un certo punto è lì a presiedere il Senato, che non è come presiedere il circolo esatto. Anagni o il circolo Fiuggi, no? La Mauro non era di turno e quindi poteva anche avere altri. Ho impegni. Capito, ma una volta che uno allora, presiede fino in fondo, no? Che fa? Se ne va a un certo punto. No, ma prendiamocela con Nania. Dov'era Nania? Vabbè, comunque, sicuramente l'organizzazione dov'era del Senato. Nania? Esatto. Fondamentale. Dov'era Nania? Dov'era dai, su. Chi se ne frega di dov'era Nania? No, ma il problema, lei ha ragione, Giulio. Non me la sto perdendo con Rosi Mauro. Posto che uno, se comincia a presiedere, poi non è che dice ho motivi personali, me ne vado senza sapere se c'è un altro che lo sostituisce. Perché no. Ma c'è no, ma uno da fare, ma prendiamocela con chi doveva presiedere. Scusi, non c'era. Ma la signora Mauro, come il signor Nania, sono pagati da noi, esatto, anche di più, appunto, per fare quello. Okay, sono pagati. Allora prendiamocela anche con Schifani, che stava a consegnare dei cani. Quanto ci è costato lo Stato italiano che oggi stava a consegnare i Beagle? Schifani? Cosa faceva Schifani? Che stava consegnando? Leggete sui giornali. Ah, no? I Beagle, sì, è vero, stava sì. Stava riconsegnando gli ultimi 3 Beagle, no? Ah, no, allora. Ma costa tutto questa cosa, vengono pagati anche di più i vicepresidenti, perfetto, del Senato. Si organizzassero meglio, si organizzassero meglio. Se si mette di turno Nania, non ce la dobbiamo prendere con la Mauro, che si è messa a disposizione, perché poteva anche non esserci, non era di turno. Sì, è sì, come no. Prendersela adesso, no? Adesso, se dopo la sua trasmissione c'è un altro conduttore, non arriva il conduttore, allora Parenzo dice: adesso temporaneamente mi metto io a disposizione. Poi Parenzo, siccome deve scendere dal pullman e non, non certo, ho capito, non, ma noi ci organizziamo, noi ci scusi a Giulio, a cucinare la pizza per la figlia, sì. Io non devo cucinare la pizza per la figlia e quindi non posso più condurre la trasmissione. Bravo, la colpa è del conduttore che viene dopo, non di Parenzo. Sì, ho capito Giulio, però il punto è che Parenzo probabilmente se non è consapevole che qualcun altro dopo di lui può condurre la trasmissione, probabilmente anche se deve cucinare la pizza per la figlia non ci va a cucinare la pizza. Allora perché non l'ha fatto l'Abbonino? Perché se n'è andata? Sapeva che Nania non c'era? Io non so a chi spetta questa organizzazione, probabilmente all'ufficio di presidenza del Senato. In ogni caso, devo parlare di Nania alle 8? No, hai ragione Giulio, comunque lei ha posto una questione interessante. Dov'era Nania? Questo è il punto, grazie. Colleghi, sono costretta a sospendere momentaneamente la seduta in attesa che arrivi il vicepresidente di turno, perché ho degli impegni anch'io purtroppo, era previsto per le 11.45, sospendo momentaneamente la seduta. Beh, ma io devo dire che Rosy Mauro è la numero uno, perché a un certo punto dice: sai che ti dico? Io ho degli impegni, qui c'è il vicepresidente di turno, non era compito mio, chi se ne frega, vi lascio da soli. Giorgio da Modena, buonasera. Strano che stasera cosa? No, non ci sia. Non ci sia che? Parla! Parla, non ci sia cosa? No, non c'è il sale, ho dimenticato di comprare il sale. È un discorso perché devo fare una cosa. Dai, qui, ma chi se ne frega che hai dimenticato di comprare no, il sale? No, infatti, vabbè. Stavo parlando tra me e me, ti chiedo scusa. Comunque, no, ti vorrei segnalare una cosa, Parenzo. Ti vorrei segnalare. Ti è rimasta impressa quella telefonata di prima di quel tizio che ha detto che sai il nome del vincitore del reality di Briatore? Beh, sì, effettivamente, anche perché non sembrava un pazzo, aveva una voce molto tranquilla, era lucido. E effettivamente sì, è un po' strano, però sì, mi è rimasto impresso, certo. No, perché uno come fa a sapere? Io ho visto la prima puntata. No, io no, in realtà no, ho visto dei servizi, eccetera, eccetera. Però l'ho certo visto, devo dire, molto bello, programma molto bello. È andato anche bene come ascolti, è andato anche bene. Grandi ascolti, programma molto bello, devo dire, del nostro amico Gabriele Imirsi, è vero? Vabbè, adesso chi se ne frega di chi è il produttore, scusa, abbia pazienza. Tu devi sempre ricordare i tuoi amici che fanno i produttori e hanno delle case di produzione. Ma è roba da matti. Non ho mai fatto nulla con gli amici di Fremenda, quindi ma ho capito, ma la gente non lo sa di cosa stai parlando. Io dico, senza conflitto di interessi, che con quel produttore non ho fatto nulla, lo saluto e il programma questo è molto bello. Ma vabbè, devo dire, vabbè, sei il solito lecchino, come al solito. Derry da Salerno. Allora devo dire che fa schifo. Vabbè, ma fa schifo, non ho detto questo. Derry da Salerno. Avete coraggio di dirlo? Vabbè, Derry da Salerno. Carlo Crociale, buonasera, buonasera. Buonasera, dica, che ne so chi è. Crocia. Dica. Vorrei chiedere un piacere, dammi il tempo di fare un editoriale su Parenzo, sulla sua uscita di ieri, sul finanziamento pubblico a partiti. Dammi l'opportunità di fare editoriale come fa lui. Ma editoriale, adesso, Derry. Alla Parenzo, ma lei è brasiliano, scusi? Sono brasiliano, Crocia. Lei è brasiliano. Vorrei fare un editoriale a Parenzo. Un signore carissimo ascoltatore di Radio 24, giornalista, che dice che sale della democrazia, finanziamento pubblico del partito, non facendo caso che il popolo italiano, attraverso di un referendum, che è il vero sale della democrazia, è deciso non al finanziamento pubblico ai partiti. Il signor Parenzo, con questa faccia tosta che tiene, ha detto: mettiamo questo finanziamento ai pubblici. Bravo, mi piace questo editoriale. Finanziamento subito, Mario Hall. E sta gente di merda. Bene, calma, lei è napoletano brasiliano. Che hai detto, Parenzo, scusa? Ho citato il film Vacanze di Natale. Levate Iervino! Levate Iervino! Vino, pare! Nessuno vino pare sia una realtà! Confronti sui fatti che il popolo italiano è deciso con referendum. No al finanziamento pubblico. Ha ragione, devo dire la verità, il napoletano brasiliano Derry da Salerno, che secondo Parenzo ha detto no. Va bene, adesso la voce del popolo. Sai, calmo. Il popolo ha detto che chi bisogna bere di meno. Bere di meno, hai capito? Sì, devi ho capito. Bere meno. Però ha ragione. Non difendi il finanziamento pubblico ai partiti. Con tutte le miserie che stai qua. Ma ti rendi conto, padre Bruciani? Questo è il tuo amico, cosa stai dicendo? Vabbè, Derry, adesso non è che se uno è favorevole al finanziamento pubblico lo devo impiccare, cioè non è che è il mostro dell'umanità. Abbia pazienza, caro Derry, napoletano brasiliano che ci chiama da Salerno, che secondo Parenzo ha bevuto, e devo dire che però c'ha ragione Derry, Parenzo, cioè io sono assolutamente d'accordo con lui. Come ho già detto, bisogna affamare la bestia. La bestia è... sono i partiti, lo Stato, affamarli, prosciugarli, togliergli i quattrini, così tutta questa gente che vive di politica, dal Batman in giù e in su, crepa, c'è? Definitivamente scompare, no, crepa no, ma scompare dalla scena, affamare la bestia, togliere i soldi ai partiti, tutti, dal primo all'ultimo, bravo, anche quelli così... che sono amministrati bene, non me ne frega niente, perché bravo, anche, che, anche quelli che sono amministrati bene mantengono, mantengono un sacco di gente, un così sacco di gente vive... Feste di De Marinis, ma, cioè non, di ma che De Marinis, che non, sei manco, non sai nemmeno il nome, che De Marinis, De Romani, ma sì, non De c'entra Romani. Niente quello, non c'entra così nulla, farà politica solo chi avrà i soldini, bravo, ma dici un sacco di stronzate, bella, guarda, un sacco di stronzate, torniamo hai. Con un grandissimo diverso ospite tra poco, l'obbligo. stai zitto, diverso invece l'obbligo, ma dici una cosa banale, anche quelli che amministrano bene i soldi prendono soldi nostri per fare, per assumere gente, fare attività dico... che non è propria di partiti politici, anche se fanno ma le cose non in ordine. Ma è un crimine, se fatta bene, io me ne fotto di essere... Ma devono farlo con i soldi non nostri, o con i soldi se io glieli do volontariamente, non devo essere obbligato a dargli, hai capito o no? Anche, certo, oh, deve e essere basta. Un processo che porterà sì, a quello, ma non siamo gli Stati Uniti. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. È ancora in casa, Simo. Ebbè, l'ha riconosciuta questa voce, Parenzo? David? Certo! Di chi è questa voce? Parenzo, mi senti sì. O no? E allora, ma di non che... sento la voce, se non sento la voce come faccio? Adesso te la rimando, È ancora in casa, Simo. Di chi è la voce? Ma come, il grandissimo, l'impareggiabile, cielo dell'Utri. Cala, impareggiabile, dice, troppi complimenti, dice. Troppi complimenti, cala. Cala. Ma come, dell'Utri, c'è tutti in... C'è anche la moglie, adesso l'hanno tirato nel mezzo, poverino. Ma hanno tirato in mezzo pure sua moglie, senatore dell'Utri. Mi dispiace. L'hanno tirato in mezzo, ma io non lo so, a me sembra tutta una cosa comica. Cosa vuole che le dica? Ma come li giudica questi magistrati che vogliono, vogliono mettere sua moglie sotto processo per riciclaggio? No, non va bene. Dia un giudizio, sua moglie... è una cosa ridicola, non giudico neppure, ma è una cosa ridicola. Sua moglie ha detto che sono impazziti. Non posso pensare che ci sia gente che si alza al mattino per fare e confezionare queste minchiate. Ecco, questa è la cosa che mi sconvolge. Minchiate. Dice, chiamiamole così, tutte tanto minchiate. Guardi che nella sua trasmissione si dicono troppe parolacce. Adesso non lo dica a voce alta, senatore Duce, no, ci fa cacciare. Sì, troppe parolacce, peccato, perché è una bella trasmissione. Vediamo di non rovinarla, cazzo. Scusi, come parolacce. Ma come? Ma dell'Utri, faccia puttana, non dica parolacce. Cala. Scusi, senatore Dell'Utri, ma lei si trova a Santo Scusi, Domingo? Aspetta, a Santo Domingo? Stava parlando al telefono. No, si era, non so, si era... Chi era? Berlusconi, no? Si era staccato, no, Berlusconi. Chi era in Groia? No, in Groia è in Guatemala, credo. Ah, ecco. Meno male, dice lei, io no? Io volevo andare in vacanza in Guatemala quest'anno, però poi ho saputo che ci andava lui, allora ho dovuto cambiare e sono andato a Santo Domingo. Hai capito? Per questo è la cosa di Santo Domingo, dice lei, no? Perché sì, sapeva... Certo. Mi ha fatto dirottare a Santo Domingo, dove peraltro... benissimo. Scusi un attimo, ma è vero che c'è il passaporto dominicano o no? No, una minchia, un un'altra fesseria. Un'altra fesseria, no? Oh, io come cittadino, sì, che ho una casa a Santo Domingo, la residenza. Alla residenza a Santo Domingo. La residenza a Santo Domingo. Scusi, ma lei se dovessero mai condannarla in via definitiva e dunque batterla in gatta buia, diciamo. Se ci fosse la cosa di andare in galera, lei ha intenzione di andarci o di andare a Santo Domingo a riparo, diciamo? Lei che farebbe? Non lo so, io non lo so, no, che farebbe. Non lo sa, e neanche io, perché questa ipotesi non la immagino neppure. E mettiamo che ci sia questa cosa, non esclude di andare a Santo Domingo e dire ti è? No, ma io non escludo niente, io dico soltanto che una cosa che mi fanno è veramente di una... è una vessazione, io l'ho chiamata vessazione giudiziaria, sì. Quindi andare in galera, sì, io ci andrei, ma riconoscendo che uno ha fatto degli errori eccetera, pagare, sì, tutti dobbiamo, vabbè, rispondere, certo. Ci andrei, ma io non ritengo di avere fatto cose per cui possa andare o debba andare in galera. Mettiamo che si arrivi a questa conclusione, e noi non ce l'auguriamo, diciamo. Non ce l'auguriamo, si va in galera. Si va in galera? Dalla galera si entra e si può uscire. Quanta gente è condannata in galera ingiustamente? Quanta ce n'è, poverino? Sì, no, sicuramente ci sarà. Ma cosa ci porterebbe? Sarei anch'io, pazienza, che vuole fare? Cioè, Santo Domingo niente. Santo Domingo, Santo Domingo ci vado quando poi sono libero per le vacanze. Cioè, ma l'ipotesi le passa ogni tanto per la mente l'idea, ma io perché devo andare in galera? Se dovesse succedere una cosa del genere me ne vado a Santo Domingo. Ma no, questo passa più che a me e tutti i miei amici e parenti. Ah, mi consigliano, guarda, mi consigliano di andare paura, via, no? Luciani, non ho paura di niente, sa che vuol dire niente? Di niente. A me fa niente. Paura solo un mal di testa, la salute. La salute, ecco. Il resto no, sono andato a fare una visita, sì, l'altro giorno, un check-up, e mi hanno riscontrato la prostata ingrossata rispetto all'ultimo esame. Il medico gli ho detto, ma perché, com'è successo? E dice che vuole, con tutta la rottura di coglioni che ne fanno, il minimo che possa succedere. Beh, questo è... Io l'ho capito, allora dico, guarda, vediamo di evitare queste cose, perché il resto non conta, però è veramente importante. Lo so. Cioè, ingroia le ha fatto ingrossare la prostata? Mettiamola così. Mettiamola così, che vuole che le dica? Ma cosa comporta la prostata ingrossata? Scusi se entro nel merito. Ah, guardi, questo lo saprò lunedì prossimo, perché faccio un controllo. Non è che si deve operare, no? No, non lo so, devono fare un esame prima. La prostata ingrossata? Sì, devono fare un esame, una biopsia, si dice. E come no, la biopsia. Sì, però sai, la cosa più terribile... Qualcosa, oppure se non c'è niente, ingrossata, pazienza, prenderà delle pillole. Se invece c'è qualcosa di più grave, bisogna intervenire. Però certo, sti ingroia pure la grossa la prostata, Sì, vabbè, l'avrà sulla coscienza. No, ma sai cos'è la cosa più terribile? Perché mi dispiace per il senatore Dell'Utri, perché l'esame della prostata è terribile, perché sai come te la misurano? No, non lo so. Guarda. Ancora non l'ho visto. Ma no, ma sai come fanno? No, dimmi. Come fanno? Ma guardi, lei è troppo tendenzioso. La smetta, no, però Dell'Utri, spieghi lei come funziona l'esame della prostata. Te la racconto dopo, le dirò se va bene o meno. Se no, è una pare cosa che, piacevole oppure no. Pare che mettano qualcosa dentro. Ha capito, no? È la metafora di quello che le sta accadendo Dell'Utri, però, mi pare, no? Ecco, bravo, lei ha colto nel segno. Perfetto. Cala. Quando la zanzarina... Allora, io vorrei sapere una cosa al senatore Dell'Utri, sì, che mi sembra in grande forma. La cosa che volevo sapere è questa: in tutto quanti soldi le ha dato Berlusconi? Le ha dato, io ho detto, in tutto, guarda, in tutto. Basta, le regioni fanno i conti loro, io non lo so. Beh, no, me lo dica lei, la vota l'autore. Che ne so io, le leghe ai giornali. 40 milioni? Sono, 40 milioni sono, in tutto? Si parla di in tutta la vita, 40 milioni, in tutta la vita, può darsi. Ma sì, è corretta o no questa cifra? 40 milioni di euro. Sono conti fatti dai miei conti correnti, mica sono soldi, diciamo, strani, sono soldi ufficiali che passano da un conto corrente a un altro e spesi col conto corrente, quindi sono tutti riscontrati, sì, sono spese di case, sì, case comprate, case ristrutturate, case, sì, arredate, spese per la famiglia, spese, sì, per libri che sono abbastanza notevoli, sì, e basta. Ma perché? Il resto, ma come, possono perché vedere chi cazzo, veramente questa cosa è assurda, le dico, è assurda. Vabbè, loro pensano che i soldi alla mafia, che ricatta Berlusconi. Sono veramente malati, io l'ho detto una volta, ma lo voglio ripetere affettuosamente. Malati, sono solamente malati. Solamente delle persone che malate hanno disturbi possono pensare cose del genere, perché uno le può pensare, ma prima di mettere in atto azioni atte a rompere le, sì, scatole alla gente, ci deve pensare se è una persona ma normale. Ma il capo, no, dei malati chi è? Il capo dei malati chi è? Che ne so, quelli che si occupano di questo. C'è gente che si alza al mattino, glielo ho detto, per rompere le scatole agli altri, che fanno, perché fanno solo questo di mestiere, invece di essere attenti, come dovrebbe essere attento un chirurgo quando opera, come deve essere attento un ingegnere, ecco, quando il capo progetta, dei rompicoglioni, eccetera. Questi se ne fottono, scusi, intercettano, denunciano, rinviano a giudizio, fanno... E questo non è un modo, questo è un paese dove si può vivere. Io non so, Santo Domingo è viva, che voglio dire, ma meglio, meglio Santo Domingo dell'Italia, dice lei, da questo punto di vista. Ma non si può vivere in un paese così, io lo dico per me, e ma sai quanti ce ne sono che pensano allo stesso modo? Ma tanta gente. Lo sa chi le vuole dare un saluto affettuoso, che mi ha chiamato adesso, che la stava ascoltando, senatore Dell'Utri? Sì. Vittorio Sgarbi. Ah, certo, come no. Vittorio, ecco. Perché lo stimo molto. Vittorio è caduto come al solito. Ci aveva chiamato dicendo: voglio salutare affettuosamente il senatore Dell'Utri. Bene. E adesso lo richiameremo comunque. Vabbè. Senta, ma lei a lei piace Renzi? Renzi? Sì. Sì, sì, mi piace, mi piace. Lo vota alle primarie? Io alle primarie, è che vado in casa d'altri. No, questo no, ma il personaggio mi piace, mi sembra una persona giusta per i tempi. E per appunto per quello che c'è oggi, il panorama politico, Renzi è un gigante. Le ricorda un po' Berlusconi? Sì, un po' sì. Un po' sì, in che cosa per esempio? Ma nell'essere, diciamo, anticonformista, per esempio. Berlusconi lo era, lo è ancora, meno. È stato sempre quando lavorava, è un personaggio che, diciamo, ha sempre pensato di fare cose buone per sé e per gli altri. Ma lui può diventare un nuovo Berlusconi? Cioè, nel caso in cui si candidasse, lei lo voterebbe alle politiche? Se non ci fosse Berlusconi, chiaro che lei voterà se ci fosse Berlusconi, voterebbe Berlusconi. Logico, certo, io lo voterei, Renzi, assolutamente. Assolutamente. Ma mi sembra una persona per bene, bravo, giovane, ben animato, e in assoluta intenzione positiva delle cose, ma ad avercene, scusi. Onesto sicuramente, dico ad avercene persone così. Ad avercene persone oneste. Ma un sacco di gente del PDL mi sembra che lo vuole votare, mi dica la verità, un sacco di gente. Non lo so, penso che se ci fosse solo lui lo voterebbe. Ma meglio Renzi dei colonnelli tipo La Russa, Gasparri, questi qua? Certo, siamo su un altro pianeta, cose nuove, andiamo sulle cose nuove. Appunto, dico, cioè lui è di un altro pianeta rispetto a quelli, cioè ai dirigenti attuali del PDL, tra cui La Russa, Gasparri, mi sembra, no? È un altro pianeta, è un altro partito. No, vabbè, a parte un altro partito, però se lei dovesse scegliere... Ho capito cosa mi vuol far dire, ma non lo dico. Va bene, Renzi vanno bene tutti, chi se ne frega. Vabbè, ho capito. La vuole salutare Vittorio, Vittorio Sgarbi, eccolo qua. Vittorio? Eccolo qua, saluta il professore qua. Ma è Vittorio o è un'imitazione? No. Voi siete bravi a fare l'imitazione. Noi siamo bravi a fare... No, è Vittorio quello vero. Volevo favorire un'intercettazione. Cioè in che senso? Che volevo congratularmi con molta convinzione. Sì. La sentenza di Cassazione che ha visto Dell'Utri non essere condannato. Vabbè, adesso è una roba vecchia, Vittorio. No, non è affatto vecchia perché tu sei distratto. E volevo congratularmi con Iacoviello, che è un magistrato, chiedendovi se è possibile che un magistrato voglia... prendere le intercettazioni di un colonnello dei carabinieri che si chiama De Donno e che si congratula con Dell'Utri. Questo è avvenuto ed è la prova di un abuso d'ufficio, per cui andrebbe arrestato Di Matteo e con lui i suoi, perché se io mi congratulo per qualche cosa non vedo l'intercettazione. Allora, sto dicendo, ma tu hai chiamato per ricordarci difensore arrivato. Ma dai, su Vittorio, hai chiamato per ricordarti questa cosa, per ricordarci questa cosa, ma noi non sappiamo niente di tutte queste carte. Su, mi pare interessante. Tu non ti posso congratulare con uno se non sei condannato. Se è condannato, ti devi congratulare. Se è assolto, la tua telefonata diventa un atto discutibile e forse un reato. Va bene, va bene. Come siamo? No, è allucinante. Vittorio coglie sempre le cose perfettamente. Senta, senatore, ma Micciche, che è candidato in... lei lo conosce, il signor Micciche, certo, no? Certo, ve lo conosco bene. Beh, ha detto... È un bravo quaglione. Beh, ha detto recentemente, tra l'altro, che non, dal punto di vista politico non le deve nulla a lei, Ha detto. Così ha detto, ma... Va bene. Le posso assicurare? Ma come mai ha detto non una cosa? Non lo so, io non lo so se l'ha detto. Siccome è scritto sui giornali e io i giornali non li leggo, vabbè, ho letteralmente, capito. Davvero. Non vabbè, ma leggo. Il Fatto Quotidiano l'ha scritto? Lei non crede al Fatto Quotidiano? L'intervista no, del Fatto nessuno, Quotidiano? No, non leggo i giornali. Guardi, leggo il Corriere della Sera perché è il giornale della mia vita. Quindi... E il Fatto come lo considera, il Fatto Quotidiano di Travaglio? Il Fatto Quotidiano lo considero un ottimo giornale. Un ottimo. Infatti lei spesso rilascia interviste al Fatto Quotidiano. Sì, io no, ma no, lei... mi telefono la Borromeo che è bravissima nel carpire interviste che non ci sono. Cioè? In che senso? Mi chiede delle cose, guardi, non faccio interviste, ma lei, ma io non faccio interviste, ma la cosa lì, e poi scrive un ho capito, ma se lei gliele dice però le cose, scusi. Ma no, non gli dico niente, guardi, non facciamo interviste. Facci solo una paginata in te. E lei ci fa un'intervista, è molto brava. Beh, ho capito, allora si inventa tutto. Si inventa tutto. No, non si inventa niente, riferisce quello che dici. Per cui io non voglia, Dio non voglia, no. Dio non voglia, o giudici non vogliano, ma qualora lei dovesse finire in galera, si farebbe, cosa porterebbe con sé? L'abbonamento al Fatto Quotidiano lo vorrebbe, ad esempio, dalla galera? L'abbonamento al Fatto Quotidiano, che gli frega l'abbonamento al Fatto Quotidiano, dai, su. Scusi, lo vorrebbe o no? Però alla Borromeo, lei ha detto che la prossima volta mi chiami che rilascio un'intervista esplosiva. Quale sarebbe il contenuto di questa intervista esplosiva? La Borromeo, ecco, non capisce l'ironia, l'unica cosa che non funziona. È una bella ragazza però, eh? Ah, bellissima, bellissima e gradevolissima. Lei per questo rilascia interviste a Borromeo? È carina, è piacevole, è chiaro che queste cose fanno, come dire, contano, no? Contano sempre, contano. Buoni risultati. Quando la chiama la Borromeo, un altro sentire, lei immagina, sta lì ad ascoltare questa voce, no? Sì, sì, è vero. È sempre. Se la chiama Travaglio invece? Se la chiama Travaglio non risponde. Se la chiama Travaglio? Travaglio no, non rispondo perché proprio mi fa senso. Schifo, no, le fa schifo, le fa un po' schifo. Io ho detto senso. Ecco. Senso, le mi fa senso. Mi fa perché? Senso. Ecco, ma lei come se lo immagina il signor Travaglio? No. Cioè, come persona, a chi assomiglia come personaggio? Sai che... Beh, la sua cultura, faccio appello alla brutta, sua cultura. Somiglia a un personaggio brutto. Cioè chi? Un personaggio di quelli proprio melliflui, tutto così, non lo so, non ci ho pensato, è una lacuna che ho, ma siccome mi fa senso, non ci penso. Cioè, senso, mi... traduca in... Adesso ci rifletterò, la prossima volta glielo dico. Dal palermitano. Perché somiglia a qualcuno. È una frase un po' siciliana questa, mi fa senso, no? Dunque, se vogliamo tradurre un po', cioè le fa, la repelle un po'? Mi fa senso, vuol dire, mi fa appunto venire un po' così, è come dire disgusto, ecco. Ah, disgusto, certo. Disgusto. Scusi, Nicciche ha detto che l'aeroporto intitolato a Falcone e Borsellino è un errore perché uno arriva e si ricorda della mafia. No, questo mi sembra un'altra minchiata. Scusa. Un'altra minchiata, anche a me mi sembra, anche a me sembra una minchiata. Sembra, francamente. Ma no, Nicciche però è bravo, io lo stimo molto. Ma lei chi voterà in Sicilia? In Sicilia non voto, quindi io voto a Milano. Ah, lei vota a Milano. Chi voterebbe in Sicilia? Chi voterei? Ma Musumeci sicuramente. Vabbè, è scontato. Non è scontato, perché è uno bravo, lo conosco, è una persona per bene, un sì. Politico avveduto, è uno che ama la Sicilia, sicuramente è uno che farà bene se riuscirà. Vittorio? Ah, è sparito. No, dico, visto il caso Lazio, no, caro senatore Ah, dell'Utri, ecco, bravo, sì, a sì. Che punto siamo con la costruzione del Partito degli Onesti, dell'Utri? Ah, io non lo chiedo a me che sono indagato e sono condannato. No, lo chiedo però... a qualche altro. No, ma dico, ma vanno cacciati dal partito questi qua, questi che spostavano? Tutti cacciati, via, via, di corsa. Cioè, in che senso, scusi? Via, ma in che senso, i cacciati? Lei vuole avere un partito di disonesti. Se si prova che sono disonesti, non possono esserci. Ma uno che sposta i soldi sul suo conto, comunque va cacciato, senatore Dell'Utri. Chi cioè... risposta sul mio questo conto? Fiorì, no, sul suo conto. Ah, Dell'Utri. Sul suo. Magari, lui, dice lei. Sul suo di lui. Ah, non lo so, se è vero, certo, se è vero. Io non lo so, sa, poi tutte le cose bisogna verificare tra sì. L'accusa e la verità, c'è un salto da compiere. Scusi, ma Berlusconi si candida alla fine? Io credo di sì. Lei se lo augura? E o lei no? Anche? Io... No, io anche, io sono senatore a vita, quindi sì. Come a vita? Finché ci sono problemi giudiziari resto al Senato, diciamo la verità. Io ho detto che faccio politica per legittima difesa, l'ho detto, lo ormai confermo, l'ha detto, lo certo. Dico e non ho nessun problema. Certo. Senta, ma non è meglio tornare a Forza Italia a fare questi DDN, se vogliono se ne vadano, no? Cioè, facciamo una bella scissione o no? Ah, sì, certo, ma perché? Di che ci stiamo preoccupando? Cioè, se se ne vogliono andare, meglio tornare a Forza Italia, o sbaglio? Torniamo a Forza Italia, tanto ormai c'è una frammentazione di partiti che qui tutti pensano di fare un partito, uno si alza al mattino e sa io faccio un partito, quello tutti fanno partiti, quindi facciano pure, che ne so, se vogliono farlo, ma che problema c'è, lo facciano. No, ma non sarebbe meglio tornare a Forza Italia, secondo lei? Ma tornare a Forza Italia è un altro concetto che diciamo così un po' banale. Vabbè, una non cosa so, del si genere. Si resta quelli che si era. Forse Forza Italia non ha più senso perché ormai è storia passata. Sì. quindi c'è un'evoluzione delle cose e quindi che si vada avanti, non ci sono problemi. Non vedo. Sento, un'ultima cosa, mi definisce la trattativa, secondo lei non esiste una stronzata questa storia della trattativa? Questa domanda. Storia della trattativa francamente non l'ho capita. No, ma è una, la trattativa è una stronzata, non è mai esistita. Ma mi dica... può darsi che ci sia stata, io che ne so, che vedessero chi l'ha fatta, cioè, può darsi, io come faccio a escludere? Può darsi, no, non si può escludere. Come faccio a escludere? Certo, non l'ho fatta io, sarei stato un genio a fare pure la trattativa. Va bene, dove si trova? Dove si trova, senatore? A casa? Sono a Milano. Sì, a Milano, sì. A Milano. La saluto moltissimo. Grazie. La saluto moltissimo. Bene, ci sentiamo presto. Auguri per la visita. Esatto. Poi il martedì lo faccio sapere. Lo faccio sapere perché... Apparenzo interessato, mi sembra. Sì, ci mandi la foto. Va no, bene. La foto d'accordo. No, la foto no. Sì. Grazie. Per me il quid ce l'ha anche molto lungo. Cala. Iva Zanicchi, Marcello Dell'Utri, ospiti questa sera alla Zanzara 800240024. Grande puntata, Parenzo. Abbiamo saputo buona. Anche forse il nome del vincitore di questo talent show di Briatore. Ce l'ha rivelato un ascoltatore che ci ha chiamato. Una cosa incredibile che verificheremo nei prossimi giorni. Interessante anche questo. Franco da Pistoia, buonasera. Pronto? Dica. Pronto? Sì. Buonasera. Io vada. Ho telefonato Cruciani. La sento, però se non parla lei, Franco. Allora, a proposito delle primarie PD, io avevo telefonato a proposito delle primarie PD. Io non credo che voi fate corretta informazione facendo propaganda per far credere alla gente che fosse giusto che alle primarie partecipassero quelli di destra. Non credo che sia democrazia questa. Provi un po' ma come fa a dire uno è di destra? Bisogna avere una mentalità più aperta. Uno qualche volta ha votato a destra, uno qualche volta ha votato a sinistra. Le primarie sono fatte per il partito, siccome il PD anche questa volta si fa imbrogliare. Perché si fa imbrogliare? Perché rovesci un po' e faccia fare primarie a Berlusconi e a Fini per vedere quelli di sinistra. Vabbè, ma questo che c'entra? Per far fuori Berlusconi. Ma le facessero anche loro, le facessero anche cosa loro. C'entra, E voi? Siccome voi dovete decidere se siete dei giullari o siete dei giornalisti. Vabbè, perché quello adesso... siete dei giullari. Vabbè, ma quello... Perché, tra l'altro, avete preso anche un premio a Rimini per essere giullari. No, veramente era forte dei marmi. Dovete dirlo che non siete giornalisti, che voi siete giullari. Sì. Perché, tra l'altro... Guarda che se mi date il giullare... La vostra campagna pro Dell'Utri. Ha capito? Ma quale campagna pro Dell'Utri? Non vi potete guadagnare, ma tanto non ci arriverà mai pur facendo... Il giullare guadagnare 40 milioni, 80 miliardi. Perché per guadagnare 80 miliardi 80 bisogna miliardi. Aver fatto cose straordinarie, perché sono 80 miliardi di vecchie lire e 40 milioni. Sì. Provi un po' lei a portare all'estero 12 milioni per vedere cosa le succede. Parenzo, intervieni tu o chiamiamo... Se i magistrati non vengono a inquisirlo, se non vengono a sapere, non vogliono sapere se... dove l'ha portati, perché, da chi l'ha presa e come l'ha guadagnata. No, ma riportatelo in corsia subito in corsia. Ah sì, è corsia, la corsia è voi, ma attenzione poi, perché quando il popolo si muove e nessuno vi salva, arrivederci. Ma che vuol dire il popolo si muove? Arrivederci in corsia, cosa arrivederci? Torni sul letto, ma quale arrivederci? Scusi, il popolo si muove che significa, Franco? Ma come si muove poi? Franco, vabbè, Marco da Frosinone. Ha chiuso. Marco, dica. Ciao, buonasera, sono Marco da Alatri, veramente. Marco da Alatri, provincia di Frosinone, bene. E Alatri è vicino ad Anagni. Vicino ad Anagni, il federale di Anagni, eccetera, eccetera. Ma Franco Fiorito è stato sindaco di Anagni. Sì, lo sappiamo, sì. L'ho conosciuto in qualità di amministratore di una cooperativa sociale. Anagni ha anche dato in Italia, credo, 4 papi. Sì, esatto, bravissimo. Allora? Io all'epoca ero amministratore di una cooperativa sociale che gestiva la piscina di Anagni. Quando Fiorito era sindaco, quindi l'ho conosciuto in veste di sindaco e poi allora? Al secondo mandato di City Manager. Quindi premetto che sono garantista per natura. Garantista per natura, cultura. Sì. Allora? Sinceramente preferirei che non venisse fatta questa campagna mediatica contro Fiorito dicendo... Ma che significa preferisco che non venga fatta? Personalmente avrei piacere che la campagna mediatica fosse di minore entità. Beh, lei avrebbe piacere che... Ma quale campagna? Ma di cosa sta parlando? Io leggo i giornali. Scusi, ma non c'è una campagna? È lui stesso che va dai magistrati, e questa sera tra l'altro va a Porta a Porta insieme al professore avvocato Carlo Daormina, tra l'altro, va a Porta a Porta a dire che sono tutti ladri, che rubano tutti, cioè che si fregano tutti quanti i soldi dei gruppi per farsi gli affari loro. Ma non è che lo dico io, lo dice lui stesso. Dunque, di che campagna sta parlando? No, vabbè, io dico che sui giornali è iniziata la questione dicendo indagato per peculato. Ma lasci perdere il peculato, non mi interessa tutto questo. Va bene. Ma è lui stesso che lo dice. Per quando l'ho conosciuto. Vabbè, che secondo lei era un bravo politico. Il sindaco di Anagni, a noi non ha chiesto mai né soldi. Ma certo, non gli richiede a lei i soldi, Marco. Magari gli ha dato qualche posto, qualche opportunità. È stato uno dei pochissimi politici che non ci ha chiesto neanche i posti di lavoro. Ma non è che lo chiede a lei i posti di lavoro, li dà di solito i posti di lavoro, non è che li chiede. No, il politico di solito dice: tu gestisci la piscina, mi devi inserire 1, 2, 3 persone a lavorare. Non l'ha mai chiesto niente. Vabbè, a lei non l'ha chiesto, ma io non lo so se l'ha mai chiesto a qualcun altro, Marco. Anche io lo so. Vabbè, la sua esperienza è quella di un bravo amministratore. Benissimo. Di politico tranquillo. Va bene. Grazie, amante Marco. Della buona cucina dei ristoranti, amante la buona cucina dei ristoranti. Mi sembra una definizione un po', come dire, limitata. Ecco, un tantinello, dopo quello che è uscito fuori, un tantinello limitata. Il signor Giusto da Pescara, buonasera. Buonasera, Cruciani. Vada. Senta, io stasera sto aspettando da un'ora e le dico con molta franchezza che sono contento di poterla parlare, sì. Perché lei prima, non l'ascoltatore che mi ha preceduto, ma quello precedente che vi ha definito giullare, è stato molto buono con voi. Sì, giullare, ma guardi che io non me la sono affatto presa. Bene, sono contento. Voi siete gli schiavi, voi siete la quinta colonna radiofonica berlusconiana. Sì. State cercando di fare una campagna squallida. Chiamiamo qualcuno. No, è inutile che chiami l'ambulanza. No, l'ambulanza, ne vuole chiamare due in realtà di ambulanza. No, cioè le primarie del PD, signor Cruciani. Le primarie del PD. Sì, avete intervistato quella cantante che si chiama Zanicchi, sì, che è veramente Zanicchi, squallida, vabbè, queste è il cose indecenti. Sì. Mi avete fatto ascoltare Dell'Utri che è stato condannato in secondo grado di giudizio in onore di mafia, lo sappiamo tutti. Allora? E mi avete fatto ascoltare anche Sgarbi. Ora io voglio dire una cosa: voi fate un'informazione faziosa, siete dei personaggi squallidi, lo dico benissimo. Con molto rispetto. Molto per rispetto. Cui detto voi fate con tutto un'informazione rispetto. Scorretta, Cruciani. Sì. Per cortesia, io non credo che Berlusconi o Casini, che se magari volessero fare delle primarie, non è corretto che ci vadano delle persone come voi che dicono di sponsorizzare Renzi. Questa è una campagna, sono le primarie del PD, appartengono al popolo della sinistra. Sì. Voi non le dovete condizionare, fate un'informazione, ripeto, squallida. Vabbè, ma lei è completamente pazzo, per cui non è un problema, abbiamo già registrato la sua follia. Dai primi passi di questa telefonata, caro Parenzo, dai primi passi. 800 24 00 24, la zanzara ancora non termina, abbiamo diversi minuti per combattere insieme e un altro ospite. Chi ti ho invitato, Parenzo? Dimmi subito, secondo te chi ti ho invitato? Non oso immaginare. Non è un politico, è una pornostar. No, non è una pornostar, decisamente strano, no. Strano, perché lei in genere a quest'ora ci propone sempre qualcosa, diciamo, legato diciamo, in no? In genere lei sì. Sì, poi chi possa aver invitato? Mangio la bresaola, Mario, tieni. Dimmi, chi possa aver invitato? Dai, parla. Chi puoi aver invitato? Non lo so, puoi aver invitato un giornalista. Dai, Davide, che lo sai benissimo, chi sono, presentami, avanti. No, chi è questo? Il vichingo, no? No, che vichingo? Don Floria? Oh, mamma mia, Don Alcol! Ma che c'entra Don Alcol? Don Florian Abramovic, buonasera! Davide, ma la memoria, dove ce l'hai? Ti sei già dimenticato. Il fondamentalista maledetto. Ma che fondamentalista maledetto? Il capo delle Febriani di Treviso. Tu sei il pericoloso, la bomba della zanzara. Pericolosissimo parlare con Davide Parenzo. Allora, spieghiamo Maometto e Vignette, perché lui la fa scoppiare ancora di più la bomba. Spieghiamo a chi ci ascolta che purtroppo Purtroppo Don Floriano Abramovic non è un personaggio inventato, ma purtroppo esiste davvero. Secondo me non rappresenta il mondo cattolico, tutt'altro, perché il mondo cattolico sono... non è lui, non è questa persona qui, Tu invece, Davide, rappresenti perfettamente il mondo cinico che disprezza il cattolicesimo e che cerca la dialettica. Allora forse il dottor Cruciani, forse possiamo fare un discorso un po' più serio. Scusi, Don Floriano, lei è ancora sacerdote o l'hanno cacciato dal consesso? No, tu es sacerdos in eternum, il sacerdote ordinato rimane in eternità sacerdote. Ma lei l'hanno cacciata, però. Che sia cacciato poi da una comunità o da un'altra è tutto un altro discorso. Beh, adesso a che comunità appartiene lei, scusi? La Chiesa cattolica, apostolica e romana. Sì, ma voglio dire, ha avuto un provvedimento di espulsione o qualcosa del genere o no? Uno fax scoppiato di traverso dove non si capiva niente, il maresciallo che l'ha letto si è messo a ridere. Ma lasciamo questa storia qua. Passiamo ai fatti che ci interessano. Scusi un attimo, ma queste vignette che stanno provocando questo casino terribile, no? Ma forse Davide Parenzo è più pericoloso di queste vignette, vi dico perché. Perché? Perché in un mondo che è veramente cattolico, allora lì sì che si può parlare di una reazione, di un proteggersi dall'Islam. Ma in un mondo che è secolarizzato, come piace a Davide Parenzo, le vignette sono solo pericolose perché creano una dialettica, un confronto voluto da chi promuove la politica del crash of civilization, adesso la nostra cara America. Dobbiamo sapere che è molto delicato parlare pro o contra. Io direi piuttosto che un Occidente che ha abdicato al suo giudizio su Maometto, adesso non facciamo il pippotto, al suo cattolicesimo e che propone tanto la religione del Dio unico, tutte le religioni, dovrebbe difendere quello che ai suoi tempi ancora San Giovanni Bosco chiamava il pazzo epilettico. Ebbene, il mondo chi è il pazzo epilettico? Scusi. No, io le dico. Il mondo che oggi ha rinnegato Gesù Cristo e che corre dietro una pseudo-religione di un presunto Dio unico dovrebbe difendere il profeta di quel Dio unico, che per esempio chi è Maometto, capisce bene? Maometto. Il suo giudizio su Maometto qual è, Don Floriano? Quello della Santa Romana Chiesa, una persona che al VII secolo si è inventato una religione di punto in bianco contro la Santa Trinità e la divinità di Gesù Cristo, per motivi politici esattamente come oggi l'ecumenismo cosiddetto del Concilio Vaticano II promuove un ecumenismo. Vabbè, Don Floriano, è troppo difficile. Per provare quello che rimane del cattolicesimo in Europa e nel mondo. Vabbè, è scoppiato. Piantare contro l'Islam che è una cosa che noi vogliamo evitare a tutti i costi. Va bene, io non ho capito una cosa. Pazzo epilettico, scusi? No, Don Bosco, nei suoi scritti parla di Maometto come di pazzo epilettico, ma lì si parla di un santo cattolico, non di un provocatore, è molto differente. Maometto, io non ho capito, Maometto sarebbe un pazzo epilettico secondo Don Giovanni Bosco? Secondo Giovanni Bosco sì, nei suoi scritti lui non perché? Perché pazzo epilettico? Perché lui è convinto che le presunte manifestazioni di San Michele Arcangelo, le visioni che lui aveva erano degli attacchi di epilepsia della quale lui apparentemente soffriva. Ma per ritornare al tempo, fare polemica su Maometto ha solo il diritto chi è veramente cattolico. È ancora a casa. Tu sei come una piccola. Ancora qui per qualche minuto. Volevo un giudizio di Don Floriano su Vendola che vuole avere un figlio e sul matrimonio omosessuale. Un giudizio pacato, Don Floriano. Pacatissimo. È sempre quello non della mia bocca, ma della bocca di San Paolo e della sua penna. Nec nominator, che quel tipo di convivenza contro natura non sia neanche nominata in società. Il fatto solo che si discute se è già uno scandalo orrendo. Uno scandalo orrendo. Che cos'è il matrimonio tra uomini per lei? È uno scandalo, come sta ripetendo, forse ha imparato la lezione Davide Parenzo. Ho detto che è uno scandalo, Davide. Il fatto che lei sia ancora in libera circolazione e non sottoposto al test dell'alcol, quello è uno scandalo. Scusi, Don Floriano, ma un omosessuale chi è per lei? Un omosessuale è esattamente come un ladro è un omicida, un vizioso, un alcolizzato, un drogato, uno, qualcheduno che soffre, che poi l'omosessualità da vizio può diventare malattia o da malattia può diventare vizio, è un altro discorso, ma intanto ma scusi Don Floriano, su, io giustifico anche l'altro, tutto è malattia, tutto è permesso, ma scherziamo, un po' di buon senso ci vuole prima ancora. E cosa bisognerebbe fare con un omosessuale? Bisognerebbe arrestarli, portarlo a fargli capire che ha una tendenza invertita e contro natura e aiutarlo in tutti i modi a ritrovare la vera felicità della tendenza sessuale. Se uno non femmina. Lo vuole fare, se uno vuole essere omosessuale? Se uno vuole essere omosessuale bisogna fargli capire che ha la volontà anche di cambiarla, questa volontà. E come? Con la cura? Con che cosa? Ma dai! Con la grazia di Dio, caro mio, perché la grazia esiste, la vita soprannaturale esiste, che sana la natura, che la cambia, che la porta alla virtù. La virtù. Don Floriano, la ringrazio. Vittorio? Prego. Vittorio, dove sei? Sto andando a Fidenza, ma siccome ho sentito una bella telefonata... E giustamente vi strigliava prima uno e poi l'altro, quello che vi ha strigliato ha detto: ma avete fatto dire anche Sgarbi. Volevo dargli questa notizia, che io non voterò e non andrò a votare per Renzi, perché voi lo sostenete. E vabbè, questo un suo sostenitore che ha distrutto Piacenza, che si chiama Reggi, e io ritengo una persona pericolosa per la democrazia. Posso anche dire che, a proposito del fatto che uno vota quello che gli pare, quelli che votano Bersani sono anche Comunione e Liberazione. E benché io non sia neanche Comunione e Liberazione, io voto e faccio votare Bersani. Cioè tu andrai a votare alle primarie del PD? Andrò a votare alle primarie del PD e voterò e farò votare Bersani. Scusa, ma non... perché voi siete per Renzi. Quindi voi servite a portare noi, che siamo integralisti, a Bersani. Scusami, Vittorio, scusa un attimo, perché tu vai a votare alle primarie del PD? Perché chiunque può votare quello che gli pare. Nel PD non è che sia il partito solo degli iscritti, è il partito di chi lo vota. Beh, vai a dire a Bersani che però non penso che sia contento del fatto che tu vai a votare per lui. Certo. Il fatto che voi facciate votare, come diceva questo, Renzi... Ho capito, mica io sono stato in Parlamento con il centrodestra come te. Comunque no, per me dovresti votare alle primarie del PD, sono d'accordo, dovresti essere libero. Sento questo, che quello che si stabilisce con la vostra propaganda, secondo questo, è che voi volete togliere al PD l'esclusiva di votarsi in casa le loro primarie. Sì. Quelle primarie non sono del partito, ma degli elettori. Se un elettore che ha votato ieri come me, Pannella vuole votare domani Bersani, non vero, perché non lo può fare. No, ma infatti io su questo sono d'accordo con te. Però siccome voi fate spaccata propaganda per Renzi, il vostro effetto per noi è di votare Bersani. Ho capito, non si sente più niente. Comunque, la notizia è questa: Sgarbi dice vado a votare le primarie del PD per votare Bersani. Io spero che ti facciano votare, Vittorio. Ha telefonato e vogliono impedire che la democrazia sia anche cambiare posizione. Tant'è vero che molti comunisti negli anni 60 e 70 furono fascisti negli anni 40. Sì, ma questo io su questo ti appoggio in pieno, guarda. C'entra? Su questo lo appoggio in pieno, Parenzo, anche se uno ha votato dall'altra parte, non vedo perché non possa andare a votare alle primarie del PD. Perché lo fa solo per disturbo e non ma che disturbo? Ma non è vero, non è vero. Sgarbi, scusa, se tu vai a votare per Bersani. Sei un fattore di disturbo. Parenzo dice che vuoi solo disturbare, vuoi solo rompere le balle al Partito Democratico. Figuriamoci. Sì, vuoi solo. Qualunque elettore è titolato a votare come le elezioni politiche, anche le primarie, perché le primarie non sono il voto dei tesserati. Beh, in teoria sì. Un giovane che vuole votare Renzi o Bersani senza essere tesserato avrà il diritto di portarlo con le primarie alla condizione di essere votato. E quindi non è che uno è obbligato. Ho capito. Ho capito, ci sentiamo domani. Ciao, la Zanzara chiude qui, 18:30. Ciao. Radio 24. La passione si sente. Per me il quid ce l'ha anche molto lungo. Cala, cala.